cambio. E questo è ancora un altro apparato, dai, non è quello di sempre, questo qui è quello forte. Ora, cambio, ua! Prima per io. Ma che diavolo c'è il busto di mezzo, dai? Cos'è che c'è, scusa di me? Ho detto qualche diavolo di mezzo si è messo, l'altro si è rotto, questa non esce di radio, insomma, mi devi far diventare macco, da. Ma questo va bene, positivo caparroglio, dai, tutto va bene, ma va dopo, stavo sei mica con lo 3-1 con le versioni di Cagliari, dai, Attenzione con la cacchio, se ascolti il doppio lungo cambio. Positivo caparroccia, dai, direzione da parte mia è tutto Cagliari. Adesso chiudo, Chiudo lo sportello. Prova, 1, 2, 3, prova. Eugenio, come mi ascolti? Perfetto. Ciao Luca. E Bucato, tranquillo, passo col tutto intasato. E te cazzo da caro il coronavirus che ce ne andiamo. Cazzo lui che sui vacca, su capullo. Carità, guarda. Io devo andare per te a fare la vista, me la so con dimenti tu. Ma devi andare, guarda che cazzo, l'hanno rifiutata a mamma. Già, che più urgente della tua. Ma no, io ho telefonato, mi hanno detto di andare. Per ricattira già su di righia. Ho telefonato nel reparto dove devo farmi la visita, mi ha detto di andare che me la fanno la visita. E non si sa l'urgenza quale di più. Se lo so si mette male, che io mi auguro di no. Devo fare la lastra e poi fare la visita. Ah, ecco. Cammino come ti. come le cornacchie. Pinchi. Mi confermi che si sente bene senza checcolo? Sto microfono normale. Microfono normale. Io ce l'ho un microfono che va bene per Luca, ma è del Galaxy, è l'originale, quello sì che va bene. Cioè, ma per questo monacchino? Allora, quello del Galaxy è una bomba in chimica, però sì, quando c'ho il Galaxy, quello lì lo tengo, perché quando lo porto a aggiustare lo do con quel microfono, capito? Gamma gamma, io ne ho altri. Al momento solo questo, l'altro amplificato l'ho messo al Mobicom, quello non va bene, ma con l'amplificato ce l'avevo adattato, ma non va bene. Quello ci vuole, un microfono normale, tipo questo. Capisci a me, frate, capisci a me. Ma va, gala. Ma Luca, sto uscendo bene. So che sto uscendo bene, ma puoi uscire ancora meglio. Il microfono... se rimetti quello che si adatta ti fa uscire molto più chiaro, più limpido. Cammino. Attenzione Eugenio, se ascolti il doppio run, cambio. Quello che usavo in macchina, non lo sto più usando, adesso che mi serve me lo sto usando, se no sempre fermo, è bellissimo questo apparecchio, è tutto blu, c'ha anche le manopole tutte illuminate di blu, poi quando premi il pulsante si fanno rosse. Cavolo. Beh Luca, finito hai col telefono? No, io non farei niente. Però il televisore si è stremato l'altro, solo che adesso il pannello ho detto ci manca e boh. Un altro è a posto, l'ho usato anche ieri, oggi è perfetto. Non ho nessun problema. L'ho dovuto riaprire che c'erano delle macchie nel display all'interno, no? E dovuto da... la nicotina, l'ho tutto pulito bene, adesso è perfetto. Tu fumavo il padrone. Oh yeah. Sì, ma tu mi hai detto che stavi cambiando il vetrino a un Galaxy, mi pare. No, quello devo ordinare, l'ho svoltato, l'ho preparato. Per via, si dirà una cosa. Ah, ecco, di quelli male pagatori. No, non male pagatori, non costo come cura, è una vecchia di un mio amico, non so chi è, ma mi ha messo i soldi. Devo dire il display, come il display. Bene, bene. Il mio già sta andando sempre, però la batteria non mi soddisfa, dura troppo poco, cazzo, una giornata, prima il telefono che avevo prima mi durava una settimana la batteria a carica. Cioè io ho l'S10, la batteria se lo uso mi fa un giorno, se lo non lo uso mi fa di più, è normale, purtroppo i consumi sono dovuti anche da wifi, dal wireless, capito? Ma se prima duravano di più, perché non le fanno come quelle di prima le batterie? Non l'hai già compreso? Forse perché adesso si smanetta di più su internet, non lo so, boh. Questo è il trick, si prova a non usarla per adesso, si consuma. Non lo usi già, lo so che non si consuma, ma io lo uso. Devo fare le chiacchierate con le amiche. Aspettate che poi fai lo focciolo sulla chiacchierata. Per passare il tempo così. Positivo caparroglio, frate, non ci sono problemi, dai. Davanti Eugenio. E tu cosa sei smontato oggi? Animali, cosa sei smontato? Io sempre fermo qua. Niente, non riesco a smontare da smontare. Dove devo apparato, ho messo le luci blu, quindi tanto può fare che cosa, se non avevo venuto. No, io per il momento ho finito. Sto macinando cosa devo smontare, ma non... La lampadina gliel'ho messa, il baracchino, questo qua, gli ho messo il LED, non c'è nulla da fare, sono sincero. Io gli ho mandato un messaggio perché ho sistemato un computer, no? Che ho dato 50 euro perché non c'aveva gli altri da darmi, non c'avevo a cambio. Poi mi ha dato un messaggio, gli ho detto che non c'era, che sono pochi, però mi servono. Appena che è in zona di andare a prendermeli. Mi manda un messaggio lui. 20 euro mi servono. Attenzione, scendo, Luca, che se non mi controlli adesso. Ma io dico sto andando a fare la spesa, c'ho il foglio e tutto. Ah, ma tu a casa lo esci, non ci compreso, boh. Fare la spesa sì, ma devi andare nel negozio più vicino. E tu mi sa che ne hai di alimentari lì vicino. Ne ho alimentari lì vicino, già. Gira, gira, là. Ma stai scherzando. Già non le bussi quotidi. Io scendo via Castelletta a fare la spesa. Allora, ieri a Liliana è andata a farmi la spesa. E siccome qua da Nonna Isa l'altro giorno non ha trovato nulla, è andata ad Eurospin, stava andando ad Eurospin, l'hanno bloccata, l'hanno fatta tornare indietro, l'hanno detto che era fuori zona, che lei non abitava in quella zona, e l'ha levata a durata rete, ha detto che si è strizzata. Penso che è andato tranquillamente e ho trovato lo supposto di blocco, nessun coso. È stato fortunato, se tu mi hai posto di blocco ti si va a dare Dorado Rito. Luca. Veia. Luca. Veia, dimmi. Ascolta, tu che ti hai detto. Cosa può essere? Adesso mi sta arrivando un segnale più forte. Ma forse deve essere un tal tempo. Cioè tu stai arrivando a Santiago Nove. Non mi sei mai arrivato a Santiago Nove. Cosa può essere successo? E tu mi stai arrivando Santiago sì, prima di tre. Ci guarda il tempo, non lo so, magari basta un po' di umidità nell'antenna, hai capito? E anche l'antenna, che sono 5 ottavi, poi bisogna vedere la resa. Non è, per esempio, c'è una Mantova, la resa è diversa, capito? Sia in ricezione che trasmissione. Ma passa anche il tempo, non lo so, sono sincero, non ti direi una cavolata. Un esperto dovresti chiedere, tipo Book Claudio, non so, o a cosa, a Marco... Marco, dai, vabbè, ci siamo capiti, la chiamatore, lui è più esperto, un Walter, è uno di loro. Ehi, ehi, chiama Scorpio. Questo c'ho il cognome io. Io poi sono cambizzato. Sì, vabbè, non ho detto niente di male. Poi io. Invece io sempre mi sputo spray, va. C'ho una parte tappata. Sergio, moduleggia che voglio sentire come arrivi stasera. Tutto qua, inizio come lui, io sono sempre abbastanza via, niente di nessuna pretesa. 9 Eugenio. Io ti arrivo 9 Eugenio. Sì, lei ha. E se no Santiago 1, di solito. Santiago 1, così. Io fate a casa sua oggi. Non sa che sono a casa, da Maria non mi sente. No, da come a casa di non lo sento. Scusa. Scusa. Scusa. Scusa. Scusa. Scusa. Scusa. Scusa. Scusa. Scusa. Scusa. Scusa. Scusa. Scusa. Scusa. Scusa. Scusa. Scusa. Scusa. Scusa. Scusa. Scusa. Scusa. Scusa. Scusa. Scusa. Scusa. Oggi ci ho già provato, non mi sentiva, ho già provato. Non è connessatore, ma l'ho cambiato, è già la resistenza che c'è dove ci sono, dove c'è il modulatore lì vicino. Perché quando io schiaccio la lancetta della modulazione si muove, va a fondo scala, però non esce, capito? È una resistenza che si è partita e vuole cambiare. Ma è una fesseria, mi costa 2 euro, è più piazzarla che altro. No, non lo faccio toccare così. Ci vuole l'attrezzatura adatta per toccare apparecchi. Prima ce l'aveva la GBC, c'aveva il tecnico e li aggiustava. Li aggiusta Vittorio Giove, la Sony, quella che c'è via Mosca. Perché adesso non sta lavorando, con il coronavirus non sta lavorando. Come da quello di poco fa che tu mi hai fatto staccare, mi hai detto che stai uscendo male. Pure. Quello lì, se io gli metto il microfono normale, c'è benissimo, solo che col microfono amplificato innesca. Copiato, dice. No, farsiglio, no, farsiglio, dai. Purtroppo è così. Fare. Avanti, lupo grigio, avanti. Tiago 6, radio 3, dai. Io ti ascolto, ma non fortissimo. Non so se ti ascolta Eugenio. Eugenio, lo ascolti al lupo grigio? Ho visto che ti arriva a segnare più furti, magari potevi ascoltarlo. E niente. Luca, lupo grigio, lo ascolti? Oh, avanti, lupo grigio. Sì, ha voglia. Sono alle 9 qua. Non so se tu ascolti a me, boh. Ah, meglio così, dai. Ma dove sei? Tu che sono sei, non mi ricordo. Cappuccini. A voi, sei di fronte a me praticamente. Va bene. Di lusso, perfetto. Avanti, tu hai Eugenio, sicuramente non lo senti. Cioè, vale, tu lo senti, ma lui lo senti a te. Confermi Eugenio, non lo senti? Ciao, tu quando ti arrivate? Santiago 6, radio 5, no, radio 3, dai. Ah, ma già arriva a me, vabbè, di fronte a me, dai, sarebbe il colpo. Che io ascolto, non è che non ho problemi a ascoltarlo. Come lo stai usando questo microfono? Mettitelo di lato nella bocca a vedere, non te lo mettere davanti, mettitelo di lato. Io non lo metto mai di lato, già non lo metto così, frontale. Lì mi è come sto mettendo, la visione me la dè. Come va? Attenzione, Gianni 9 Rum, se tu ascolti Luca, gap. No, lo stesso, boh. Pensavo che fosse perché la voce andava troppo in direzione in dritta, capite? E adesso domani non ne voglia, stasera non ne voglia proprio domani, c'ho una delle buste che c'ho dei pezzi di microfono, cavetti, se trovo qualche capsule gliela smatto dentro, di quelli, cosa me lo stava dicendo, di quelli del microfono, col microfono verde. Capitolo. La capsula dei del gliel'ho sbatto dentro. Ma magari io lo stesso ho fatto un intruglio così, ho messo un'altra capsula, gli ho messo il coperchio del Midland. Va bene, ma tu ci andrà bene lo stesso, non c'è problema, fratello, non ci sta problemi, capisci, a me, avanti un po' lì. Pomeriggio, cucciù. Ma non è che, ma no, non lo dico, ma l'hai visto Luca, quello che stava minacciando di suicidarsi, è tornato indietro, ha preso l'equilibrio davvero e farà due giostre, e ha aggiunto tanta l'ambulanza, la testa chicciata. E dove? Monia. E praticamente sta tutta quanta schiacciata, cioè lui stava solo dicendo che si buttava, no? C'era tutta la gente giù, è tornata all'indietro e ha inciampato le cornicioli e è caduto giù all'indietro. E meno male che dal quarto piano si è salvato, ma te ne immagini quando uno non deve morire. Caduto sul vetro dell'ambulanza, te lo mando. Stavo merendando. Buona. La cosa è bella, frate, la cosa è bella. Cosa? Tornato, lo porta io. Da 4.005. Ho ricevuto là il messaggio. Sì, aspetta un attimo. Vai, guardalo. Viene un po' male a fare le foto. E tra il mobile, di fianco. E vabbè, con questo l'ho mandato. Praticamente quello lì ha minacciato che si buttava, poi è tornato all'indietro, si è accorto che era il bordo del cronicciaggio e fa la dovina. Passati, dai, quegli apparati. Cazzo, l'ho visto già, mamma mia. Sì, ma sono apparecchi di vecchia era, dai. Con pochi canali, poche frequenze, eccetera. Ma è morto, sì? No, fratturato, ma si è salvato. Cazzo! Lì sotto c'è scritto. Dove eri finito, lupo grigio? Ci siamo preoccupati per te. Perché abbiamo visto una fotografia di uno che è caduto da... che ha minacciato a Bologna di buttarsi dal tetto, poi è tornato all'indietro e ha preso l'equilibrio davvero e ci è sceso giù. Pagappa. Andale. Come mi ascolti, lupo grigio, gambi? È quello, l'altro apparato è partito. Non lo so, non esce più di modulazione. No, non ce l'ho, ma ci sarà su internet sicuramente. Ah, non lo vedevate voi cosa sostituire? C'era chi vi diceva sostituisci questo, sostituisci l'altro, così è. Capito, dai, vi davo un indirizzo su dove, e questo qui deve essere lo stadio di modulazione, dai. a parte la modulazione, sicuramente qualche resistenza, perché di modulazione praticamente tu premi la portante e la lancetta sale a fondo scala, però non si sente, capito? Cosa oggi? Viene male fare la foto, capito? Come faccio? C'ho uno spazio di un palmo, viene male, l'ho incastrato il baracchino, l'ho messo vicino al letto praticamente, là. Se no ce l'avevo prima messo nel, come si chiama, lì nella scrivania, sotto attaccato, dove c'ho tutti i macchinari per lavorare. Gava gava. Ah, sei interrato, sì. Oh, Nicola. Non c'è freddo. Ecco, è tipo il mio, Eugenio, è tipo il mio. Simile al mio. Cos'è il 3009 quello? È carino, Se lo trovo uno così, bello, piace a me quel tipo di baracchino così. Se lo trovo a Sacovarattu. E poi c'ho questo, aspetta. Io questo l'ho comprato dopo la negozio, Faccio il consiglio qua, l'ho pagato 185 euro. Esce bene. Quello che sta facendo con le BMW5, Eugenio. Cosa c'è? Le BMW5 l'hai abbinato, quel 3009. Sì, io ho messo le BMW5. Bella chiara la radio, là. Esce bene anche con il Porsche. Perché non l'hai staccato i contatti? Non ce li avevi? Ce li avevo, ma io devo staccare e non mi ricordo perché. Per utilizzare lo spinotto che c'era nel Proxer per un altro microfono. Tu li fai i contatti e vanno bene, te li devi segnare 1, 2, 3, 1, filo rosso, rosso, verde, giallo, capito? E non sbagli più poi. Lo so. Infatti questo gli ho segnati, però gli articoli così. Beh, ognuno c'ha, mette i suoi colori, non è che siamo tutti uguali. Cosa faccio io? Quanti fili sono? 4. Ok, allora, quello del test, se lo sai usare, ti cerchi la portante prima. E se dici lo spinotto nel baracchino, ti cerchi la portante. E gli agganci. Fai un ponte, ovviamente, no? Mi sa che sono delle messe di lato, non mi ricordo. L'1 e il 3, mi pare, mi sembra portante, non mi ricordo bene adesso. E lo uso così. E lo piazzo così. Poi mi cerco la ricezione e poi la trasmissione. Allora, il prossimo è, io ti ho segnato poi l'1 del bianco, il 2 della massa, il 3 del rosso e il 4 del giallo. Sono invertite, ma i primi due allenati sono giusti, saranno la portante. Gli altri due penso che ormai non me li ricordo, sono sincero. Comunque io faccio così. Se lo ritrovo mi cerco la portante del microfono. Cosa ne so, rosso o giallo ad esempio, no? O nero giallo. O nero calza. Giusto per farti un esempio. Con il testo. E poi nel baracchino con un pezzo di rame, un pezzo di stagno, mi cerco la portante del baracchino. E li aggancio così. E poi mi cerco l'audio, cioè trasmissione e ricezione. Bisogna vedere se la capsula è buona. Non lo so. Io adesso con uno di Simone lo vazi di blu più volte, ci devo riuscire per forza, più forte di me. Io quando c'è una cosa, se proprio non si può fare, lascio, prendo, smonto, pur prendo e butto, è capitato, non è che sono cui, saga, però diciamo più delle volte l'ho sistemata. Vabbè, io cosa ti dica? Non so, mi cerco questo microfono, quello verde, se c'è. Tanto sfilotti già ne ho, a voglia. Inter, ti va di schifo, c'era tutto peggio di questo, cupo. Fai il viraggio, Miggia. Ma sai che l'ho smontato però? Capsule buone, erano quelle dei citofoni, quelle col contorno verde, quelle lì sono buone. Vai, lupo grigio, vai! Lo sappiamo, ma io non posso farlo perché non c'ho stampante, quindi quando devo uscire non li uso molto. No, ma io lo so da ieri, non stai uscendo, Eugenio. Niente. Non so da ieri del modulo. Solo che sono impossibilitato a farlo, io c'ho ancora il primo, fatti l'uconto, perché non ho stampante a casa, mi si era rotta e poi non l'ho più ricomprata, tanto non la uso quasi nulla. E adesso mi trovo senza. Macchina. Ah, non puoi uscire in macchina adesso. Sì, vabbè. Se uno deve andare a fare la spesa, anche se non c'è il foglio, glielo compilo lì, chi se ne frega. Solo ci sono, l'hanno fermato anche a Natalino col cane stamattina, hanno fermato una persona che stava andando a farmi la spesa ed era fuori zona, eccetera eccetera, li hanno fermato di gente. Solo che vicino a casa mia il supermercato è vuoto, non c'è nulla, e quindi stava andando all'Eurospina per farmi la spesa a me, capito? E invece l'hanno fermato. Isa, nonna Isa vicino a casa, cioè non Sisa, nonna Isa, e ditali che è praticamente il discount di nonna Isa, e lo so, ma la Conad è un negozio per ricconi, capito, ci sono prezzi alti. Negozio per ricchi da Conad, cioè costa un bel la carne, costa un bel la frutta e la verdura. Lo so, io oggi che è roba di prima, anche noi non abbiamo roba di seconda, abbiamo roba di prima anche noi, e anche da noi la frutta e la verdura è un po' caruccia, però io compro roba buona e a prezzi sbalorditivi. Vicino a casa c'è una frutta e verdura che prende roba di miris, muravera, arancia, che sono dolcissime, buone, la frutta, la verdura, tutto quanto è roba di quelle parti lì. Sai questa frutta e verdura? Se ne vede. Borgona. Sto pensando dove possa essere, non ce l'ho presente. Dove sono le scuole? Lì. Scusa, non Borgona, non San Giusto. Le tue scuole non San Giusto. Ah, tu mi hai detto Borgo, io stavo pensando per la frutta e verdura, se risultava che c'era quello che aveva il materiale elettrico, poi di nuovo, poi c'era il nostro negozio, ma più di verdura non mi ha mai detto che finiva. Sì, sì, ho capito. Capito dov'è? Scappa. E lì c'avevo un cliente anche io di dietro. Positivo è K Roger, Gianni Lopio Rombo, se tu ascolti questo modulometro. Via Luca, ti ascolto, forse ghiasso. Tu sei, non sei origini sarde, va. Sì, un pochino. E di Palermo. Ah, Palermo sì, un pochino, di Palermo sì. Una frazza. Ma da tanti anni vive qua. Tu? Non lo so. Penso di sì, visto che prendeva servizio qua. Faceva qua il carabiniere. Ah, ecco, ex carabiniere, ah, ecco. Pomeriggio, che ti succede, gabbia? Un momento di sorreggio. Non penso, perché ha alla mia età. Non so se è di più dalla voce. Sì, sì. C'è una bella differenza nella voce tua, la voce sua, ti sembri senza offesa per lui, non è stato più giovane. Sembro, ma ce li ho gli anni addosso, poi ha. E io oggi perché ti meravigli? Me lo dicono tutti, anche perché sono vivo come persona, sono, mi piace scherzare, adesso sono un po' battuto da questo cavolo di coronavirus che sta, ci sta deprimendo tutti. Pare Luca che la Madonnina delle Grazie ci ha fatto la grazia anche questa volta. Speriamo bene, dai. Speriamo bene. Senti l'eco sotto sotto, basso basso, vero? Oh. Ce l'hai tolto l'eco? Ma ci sei, io non lo sento in cuffia, basso basso basso non lo sento. Ma non si sente qua. Cari lì accenna a uscire ma non esce. Figlia ia. Vabbè dai, speriamo che... passi tutto. Poi... secondo me già te ce l'hai in giro. Non gliene frega niente, capito? Ascoltavo il mio consiglio, usare il manganello quando vedono la gente così in giro, e quindi anche per il manganello, vedo che rimanevano a casa. È vero. Si conferma Gianni, si conferma, capisci a me, fratello. Se non la capiscono con le buone, la devo capire con le cattive. A un certo punto non possono rischiare gli altri per quattro coglioni, scusando la frase, che ci sono in giro. Ma infatti è quello, come a me hanno fatto il cazzettone, non so se hai letto su Facebook, che gli ha detto chi va a fargli la spesa, mamma vai tu, ma non puoi uscire, ma stai scherzando, ma tu me lo devi dire, se mi sì o no. Tu dici mi chiama carabinieri, poi già mi arrangio io, tu hai anche la residenza lì, però non ti puoi allontanare dal posto. Devi andare nel negozio più vicino che c'è, può essere un alimentare di quelli piccoli, devi andare lì, perché non ti mettono alla scelta, devi andare nel negozio più vicino. Io adesso per dire, Viviana mi stava facendo la spesa ieri, sono rimasta bloccata e adesso deve tentare stasera andare, però non la bizzeggeggiare, perché qua non c'è nulla. Già, io vado sempre all'Eurospin, capito? Vado sempre lì, stavo a fare l'alimentare come tiro un piglio di nulla, ma l'Eurospin qualcosa la prende, capito? Sì, ho fatto la spesa, c'è un numero di una frutta e verdura che ti porta la spesa a casa. Ho fatto la spesa, mi sono venute 32 euro, due cose di lattuga, due di funghi, dopo cosa ho preso? 8 panini. No, 8 panini non c'erano, non me ne ha messo anche. Ma due cazzate, 4 litri di latte, 35 euro. detto, ma non lo direi più così. Io con 35 euro non so quanto ne compro di roba, minimo faccio 6 buste da Moscardini. Ho capito, avanti. Lupo grigio, avanti. Ascolta, stanno dicendo Gianni, che i carabinieri qua a Sassari. Ma quando sarete in pensione? Da poco? Sì, ma dico, da poco si è andata in pensione? No. Non so se è conosciuto a cosa, a... era qua a Sassari, Nicolino Pano. Nicolino era Osiri. Era a Sassari, clà. È stato anche a Sassari, clà. È stato anche a Sassari, da Osiri è andato a Sassari. Non so, però io ho conosciuto Osiri. Buonasera a tutti, dai, ci sentiamo tra un attimo che mi sto alzando. Magari va bene. È un casino, è un casotto. Ma ci si dà molto a Sassari, sì. Diciamo che sei, non dico sassarese, da comunque, tua moglie è sarda, sì? Positiva. Ah, va bene. Claro, lo senti da Nicola, sì? Frate si è assentato. Avanti, Eugenio. Sì, va. Io volevo dire una cosa, Comunque, allora, per quanto riguarda il microfono, se vedi che non esce in radio, cerca di spostare un altro filo di quelli della portante, vai, provane un altro, vedi un po', perché così devi fare. Perché mi sa che sono due fili che ti fanno fare le portante, adesso non mi ricordo quali sono. Prova, vedrai che già esce. C'era Gianni Profetta. Infatti devo fare il cambio. Sì. Vabbè. Comunque, volevo dirti Nicola, ma l'antenna ha deciso di piazzarla, sì? Ho detto, l'antenna hai deciso di piazzarla. Va bene, poi dipende da quello che vuoi piazzare. Va bene, va bene. Ma questa passione del baracchino l'hai sempre avuta? Sì, vabbè, l'FM è diversa, dai. Oggi vorrei fare una prova con te in FM, ma se no, non lo so, se lo senti. Ma tu lo senti, Eugenio? Che cambia molto. È fatta questa prova, te l'ha vinto. No, per me non lo sa. Prova Eugenio, dai, prova l'FM, passa l'FM un attimo e chiamalo. Va bene. La prossima è Eugenio, la porti di Pierucci. ha portato la seconda radio. Oh, la montagna va da momento, momento va dalla montagna. Avanti, positivo Cavalloni, frate. È un po' basso sei fa, dove sei? Ti ascolto, dai, non ci sono problemi, frate. Non so, segnale, vabbè, fai, prova. Chi è? Segnale 4, quasi 5 cifra. La radio c'è buona, dai. Franco Pittella. Questo è una modulare già. Cazzo. Franco, ho detto, mi arrivi qua quasi 5. Se la radio c'è buona, dai. Sì, sì, tu vuole che ascolti a me. K, che tu non sei in campagna. Va bene, dai. Lo senti così a Franco? Lo sento io dal Califano. Ecco. Califano, California. Califano. Lo sento metà al corrente, basso. Non so se non mi ascolta, brutto. Chi mi ha salutato avanti? Chi mi ha salutato avanti? Oh, io ciao Luca. Tu lo senti Gianni? Ma chi? A Franco, certo che lo sento. Ciao Franco. Ciao Franco, buonasera. Ti sento, un po' bassino ma ti ascolta. Ma da dove stiamo modulando? Dalla macchina? E con che antenna stai uscendo, Fra? Capito, capito. E puntala verso Sassari, magari ci metti. Cava, cava, cava. No, ma già ti ascoltiamo, dai, dai. Masso, ma ti ascoltiamo, Anda a vedere, a casa quando riprendi. Ehi, proprio adesso che non puoi uscire. Ma adesso sei fisso lì in campagna. Cazzo, se ti trovano guai, Adesso c'è anche il sequestro della macchina, se non c'hai un motivo valido di salire. Cava, cava. Vabbè. Speriamo che la Madonnina delle Grazie ci abbia fatto la grazia, dai, Siamo arrovinati, cap. Luca, la Madonna che porti tu, che Madonna è? La Madonna, ma la Maria mi pare. Ti pare, Catarica, ma te non sai cos'è. Lo conosci a te, che è un 700. Aspetta, già sai dove sei in ponte. Luca, ma non ti sei accorto di nulla che ho cambiato apparecchio adesso? No. Adesso l'ho cambiato, adesso non sono più col 48 ma sono col manico. Gira bene anche questo, vero? Conferma. Ti devi attrezzare un po' fra. Arrivi basso, dai. Basso. E quell'attrezzo là, tu usando lo stai, quello che di cui è venuto anche una a me. La garamba, carabina. Cosa ti è preso tu? Anche io già la sto usando, c'ho un benimira, sono da temere io. Sì, un benimira c'ho. Aggiungo su una monettina la giubilata in pieno. Nel terrazzo mi sto divertendo, veramente in terrazzo. Ci metto... Le prime volte ho sfasciato il muro, quindi adesso ci sto mettendo le protezioni. Ci metto un coso di latta, poi del polistirolo e poi il tirassegno. C'ho il tirassegno che ho comprato a caccia e pesca. Ehi, riattacco al polistirolo con quelle puntine da disegno, no? Le attacco così e poi sparo. Via. Vai Luca! No, io non lo conosco Eugenio. Ti piace? Grazie. Eia. Non sono tutto scusato. Quanti watt va il magno? Questo qua, adesso la M mi stanno 20 watt. Cos'è? L'esteroso? Cosa? L'esteroso, giusto? Non ti ho capito. L'esteroso? Non riesco a capire, è passata la voce. No, non è lì se no, è 980 il mio. Ciao, sembra che abbia una patata in bocca, che microfono stai usando? Ma tu stai la nota c'è la patata, guarda, non so io. Non di me, sto guarda, non so, il tuo. Osmarino. Vabbè, io non ti sento bene. Andavo. Osmarino. Sì, di Luca, non sono che sto adesso. Ma non è muore, non è muore. Catta, bubu. Non è muore, non è muore, non è muore. quasi un momento. Io sono quasi. No, sto scendendo male, Mario, forse devi sta passando un po'. Scusa, oggi un po' ma che esci male, Mario, esci tutto un po'. Basta, basta un pochino, va. Non va bene adesso? No, sto scendendo male. Adesso va bene. Aspetta un attimo, oggi. Ok, ma chi mi ha chiamato? Riprova, Mario. Prova uno, posso provare? No, Mario, è troppo alto, sì, no. È troppo complessa. Basta, basta, raccomando, che stiamo suonando, attimo, va, ti sentiamo dopo, amico, qua. Avanti, chi l'ha chiamato? Sempre uguale sei, fra. Da me no, sono da Gianni, boh. Prova, fra. E da me un pochino più forte arrivi, di radio, soprattutto. No, più o meno, ma qualcosa in più hai preso, là. Però potresti fare meglio, perché con quell'antenna lì se la metti sul tetto arrivi da tutte le palle. Perché? Vabbè, è una cosa tua, dai. Ma non è che ci sia nessuno che non ti faccia salire, sai? Kappa. Ascolta, quell'alimentatore sta sempre andando bene. Ma lo sai che quello lì ti dà tutti quanti gli amperi proprio che... Quello lì è buonissimo, mio, l'alimentatore. C'è il trasformatore interno. Diciamo che le luci gliele ho messe io perché non ne aveva. E in più l'ho fatto nero perché era bianco e non mi piaceva. Cavagala. Hai visto? Che sei contento di quello che ti do io. Prova. Dove ce l'hai messa? Mettila attaccata in un albero in campagna. La picchi e l'attacca a un albero. Così non devi stare andata la cabituria. Occhio però perché sei già grande di età, lo sa che carica. Avanti, lupo grigio. Lupo grigio è morto. Avanti, Eugenio. Mamma, se mi rende male, là. Chi è là? Avanti. Sì. Ciao Lacchi, mi hai sentito con la realtà in compagnia di Eugenio da Porto Torres, Luca del Monte, e poi c'è Franco California dalla sua campagna, Cambio. Dai. Avanti Luca per Lacchi. Luca Lacchi. Luca non sente. Franco, prova a vedere se ti ascolta Lacchi. Ciao Gianni. Ciao Pomponio. Santoni. Salutone anche a te, ben sentito, buonasera. Sera. C'è Lacchi, non lo salutate, Eugenio, non volete salutarlo? No, a me, io il camionista non li posso vedere, ma sono a casa oggi, forse là. Sono proprio di Grimm, la compagna. Già lo so. Già lo so, forse ci sono io, adesso vediamo. Franco, riprendi. Sempre basso, sì. O non ci sono regolate bene le stazionarie di fra. Bene, oppure magari in una zona un po' coperta, non lo so cosa sia. Però se è bassino, là. Non c'è problema. Gioia. Chiara. Andà bene. Luca. So i noghe. È entrato Lacchi, saluta. Chi è che è entrato? Stavo ascoltando un video. Lacchi. Attenzione, Fortunato, se tu ascolti Luca qua, Gap. Sei a casa? Ah, è positivo, dai. Ma già mi ascolti, sì. Io ti ascolto un po' bassino, Fortunato. Comunque ti ascolto, dai. Comunque salutoni, una fretta di paletta, Gap. Fortunato, se non si tratta anche a casa. No, non hai capito. Attacca scale niente, già va bene. Vai, prendilo da 10, dai. Aspetta un attimo. Il telefono ha fatto il volo, ma vaffanna. Già ci sono, ci sei franco. E adesso arrivi più forte di radio, perché c'è l'eco. Però ripete troppo, regolalo. Adesso di meno. Che apparecchio stai usando? Alla 68. Ah, quello che ci avevi dato, dai, che ha fatto modificare. Troppo ripete. Dovrebbe essere più lento. Adesso sta andando meglio, però ripete ancora troppo. Antonello, ce l'ha, fortunato, il baracchino, o ce l'ha chiuso? Ho capito. Mi ha volato il telefono, la faccia a terra, ma non c'è il vetrino di protezione. Il catalogo basta, c'è l'SSI, che è nuovo, mi è abbastanza nuovo il telefono, il cauto in terra si è filato. Sembra così, ma il vetrino ripara. Gianni doppio ru. Oh, mi sento male, aspetta che vado a prendere il qualcosa, c'è un bruciore allo stomaco allucinante. Adesso voglio due crackers. Cazzo, sono castagne di voci, adesso si può... Cioè io la... il supermercato ce l'ho vicino a casa e alla fine non posso andare in un negozietto che ti spennano. Il negozietto può andare a prendere due cose che non farti la spesa. Comunque ce l'ho lì in via Grazia dell'Etta. Ma quello di via Grazia dell'Etta ha sempre Multinito e con lui? No, mamma. Vabbè, ma il padrone è Multinito e... No. Multinito non sa più niente. Multinito ha venduto tutto, adesso è a casa con i soldi. Vabbè, c'è Ugo, è morto. Mi ha lasciato tutti i figli. Quello con gli occhiali che c'era nella Grazia dell'Etta, è morto. Ma quello c'è Vittorio, Ugo Multinito è morto. Ugo. Ugo, è? Quello che ha costruito di fronte a... al bingo. Il padre di quello che si deve ottenere. Boh, non lo so. Comunque, il fratello di signor Vittorio. Multinito. Fortunato, dove sei arrivato? Fortunato sarà quello che ti sei, terra d'anello. Io sono un cantante, non cantante. No, ecco. Infatti io sono cantante, non cantante. Sono dei cavalcisi. Montalbano. Domani sono a Napoli, Barcellona e a Milano di Malta. Ma cosa fai, la guardia? No, ragazzi. Parla con tutti gli sbarchi. Sì, siamo sempre noi quelli, però io faccio una connessione. Io praticamente imbarco i rimorchi. Aggancio lo porto dentro la retroarcia. Ah, ho capito. E importante ci vuole per fare un lavoro, giusto? Come mai non ti sei messo a fare l'autista? Cioè, fare camionista? Eugenio. aperto. Cosa fai? 3 ore. Come? Cosa fai? 3 ore. Gianni, farà del disegno, Gianni do più rum. Gianni, tu sì? No, sì. E beh, Antone. Ma cosa, Antone? Chi è? Tonino. Era ora. E beh, cosa? E beh, e allora, che fai? Se mi ascolti, sì. Sì, a voglia. E vabbè, sono a casa adesso, L'altro giorno a casa della mia ragazza. Cosa che non puoi uscire? Aspettate un attimo, Ciao Antoni. Marco, mi ha chiamato Fortunato. Fortunato ma con l'intento, ma chi c'è di essere tenuto? È un dottore, se è Eugenio. E tu sei di Esplate, ma da te sei di Esplate, da me, non penso. Ah, boh, no, da me no. Ne da te, a Porto d'Orra. E cosa ci abbiamo noi? Vediamo di Harley Piros. Gianni, mi ha Tonino. Ciao Tonino. Ciao Gian, ma come arrivi? Non mi dici sì, ma niente no. No, ci avevo un po' di bruciore di stomaco, ho mangiato l'insalata con il pollo oggi. Ma abbiata bruciore di stomaco, ma ero da tanto tempo che non mi prendeva questa cosa e mi sono bevuto un po' di latte per calmarmi, già mi ha calmato adesso, dai. Però va. Ma lascia stare il pollo per il tacchino che è migliore del pollo, 100.000 volte a 7 qualità di carne. Il tacchino è più magro, vero? 100.000 volte meglio, a me mi ha prescritto pollo tacchino, io prescrivo tacchino, perché innanzitutto è molto meglio del pollo. E io non vale l'altro. Mi sono fatto l'insalata con il pollo, cavolo. Ed era buona, solo che ci ho messo anche maionese in mezzo. E allora la maionese è troppo grassa, ma io già, quando mai ti pone la maionese? Ma mi piace, malato. Ma fa male. Magari va bene. Adesso ho bevuto un po' di latte, il latte in casa te il bruciore te lo toglie subito, Pare così, me l'ha detto un'amica una volta. Boh, con il latte risolvi subito. Io sono uscito, sono andato a Mauri, ci ho fatto un po' di compere, ma ve l'ha provvista, di prodotti per casa. Io invece manco quello posso fare. E ancora non cammini? Sto camminando, ma no, faccio 4 passi e poi mi stanco, non è che cammino, no. Non è una cosa che ti riprendi dopo 2 giorni, no? Ci vogliono 3 mesi per guarire bene. Luca. Ehi, Antoni. L'altro giorno ho telefonato con Stefano. Adesso che ha detto che se ne scende a Sassari. Per quanto riguarda una tipa che mi ha mandato mi ha mandato un messaggio, cioè ce l'aveva lui con un'amica su Facebook, e mi ha scritto prima ciao, e dopo un po' di ore mi ha scritto ciao Luca, mi stai disturbando il televisore. Infatti poi mi sono sentito con Stefano e perché mi ha detto non so manco chi è. Ma che Stefano dove ha detto? A Olbia. Anche lui. Dice, ma sta parlando di aspetta, Stefano Principe Azzurro. Stefano Principe. Ah, sì, lo so, ce lo sapevo. E vieno qualche volta la settimana viene qua. E intanto ci vediamo, Stefano, un po' ci vediamo. Adesso non può uscire ovviamente. E non può muoversi da Olbia. Sì, però lui siccome c'è la residenza a Sassari, là non si può fare niente, tanto che se ne scende qua, col foglio ovviamente, no? Che sta andando a casa del padre per accudirlo. Ma non capisco, va bene, dai. Avanti Gianni. Sono un qua. E tanto cosa ci sta a fare a Urbe? Tutto fermo. È fermo l'aeroporto, lui porta la gente dall'aeroporto, ma è fermo, non può lavorare. Avanti con lo pio pio, sono di nuovo qua. Eugenio, lo senti Antonino? A chi? A Tonino, lo sento, vai Tonino, prova a chiamarlo. Io te lo sento Eugenio, ma è pazzo. Buonasera Tonino, buonasera. Ciao Eugenio, Eugenio, buonasera. Il segnale è buono, la radio è molto bassa. Oh, ma dove sei tu? Porto Torres. acciaio di amplificato Torino. Darne più 3.000 a tavolo. Quello va bene, perché non ce lo metti? Quello ti fa schicchiare forte, forte. Perché devo staccare un filo, perché mi innesca e fa un fischio, almeno per le palle. Devo aprire il filotto, c'ho quello fatto a curva e mi rompe. Vabbè, vabbè. Vedi di farlo, quanto adesso tempo ne hai, cosa si vende? Ma veramente già, io stavo lavorando sia a ieri, purtroppo sono un infortunio. Infortunio, se guardi se va. Ma non granché, diciamo, però cavolo, una bella botta, eh. Incidente in macchina, ci hanno tamponato, questa qua non si è fermato lo stop. Noi eravamo via Torre, se questa è via Zaffaria, si è abbiato in pieno. E lì c'aveva lo stop. Con la macchina della ditta. Sì, sì. Ho chiamato la polizia principale subito. È passata la pattuglia della polizia statale e ha fatto il colmo, eh. Non c'è traffico, non si è avuto l'incidente. Così va, si va. Ehiga. Comunque stamattina ieri sono andato, dottore, per quello l'infortunio, portato tutta la ditta e poi tra l'altro stamattina sono stato dato all'ortopedico e poi dall'ufficio sinistri, alto rischio, eccetera. Insomma, tutto fatto. Quando è così ha preso il colpo al collo, hai. Allora, ho svolto forte il ginocchio sinistro, che come un tocco non si è gonfiato meno male. E mi ha spiegato l'ortopedico che noi abbiamo una piccola cicatrice che voleva sempre per lubrificare il ginocchio per fare il movimento. Il motto che ho dato, giustamente, è anche l'età che ho, comunque. E il collo invece mi stava tirando il nervo che c'è dietro, un nervo molto che ha un dolore. Ho preso il tachipirina e hai fatto bene a prendere il tachipirina. Comunque sono troppo all'altro adesso, che poi con l'altro non ci vedo qui, però ci vorrei l'ecografia. Ma comunque, adesso vediamo. Adesso ho pagato sia dall'azienda che poi dal produttore, cosa vuol dire? Ci facciamo un po' di soldini per Pasqua, dai. L'azienda ti dà il 30%, il futuro è 70%. Io lo so perché ci sono già passato. C'è il 100%, l'azienda ti dà il 30%. Ma cosa? È l'assicurazione? Sì, l'assicurazione ti dà il 70%, che sarebbe l'INAIL. In più c'hai il 30% dell'azienda. Poi se tu hai un'assicurazione a parte, ben venga. No, aspetta Gianni, ricapitoliamo. L'INAIL è un costo, perché mi devi pagare le giornate che sono fermo, che sono l'infortunio. Ok, e l'anticipo all'azienda. Però l'assicurazione dell'autovettura che ci ha tamponato, quella ci paga a parte. Ah, ICI? Vabbè, non lo so. E allora è così, così. Se mi paga a parte ti fai soldi per Pasqua. Guarda, a me mi è già successo una roba di 12 anni fa, mi hanno tamponato con la macchina aziendale, allo stop, mi sono fermato e mi sono portato dietro. E mi hanno dato 3.500 euro, mi hanno dato. Va bene, ti compri l'apparecchio nuovo, dai. Ma no, ma già, veramente, non ne ho bisogno, soldi ne ho. Non ho problemi, proprio di soldi non ne ho. Vabbè, ma dico. Beh, vengano. Se proprio non sai cosa fate, dagli a me. Ciao. Ho un po' di bruttolento, ho conservato in banca, giustamente, io spendo poco. Quando mi c'è a fare qualche provvista, prende conto. Mi è piaciuto un televisore 50 pollici, me l'ho comprato e via, eccetera. E cosa ti volevo dire? Niente, sì, ha dei soldi e ripetiamo, adesso le conserviamo. Servono sempre, non sa mai che viene la guerra. Davvero, vero. Intanto gli lasciamo un bussive. Avanti, Luca. Allora, aspetta. Stavo guardando la protezione civile, mi stavo guardando. Allora, il televisore 50 pollici è bello, perché chi è che non piace? Però il giocatore di balle è quello di si fascia. A ragazzi tua assistenza. Ma Luca, guarda, dirò, io ho quella scatola conservata, c'è la garanzia sua, eccetera. E su Mubi è troppo bello, a me piace. Quando ci rompiamo di domani recupereremo un altro, non c'è problema. Un altro soltanto 350 euro, non è che l'abbia pagato già, no? È a LED. A me ne hanno regalato uno da 50, praticamente c'erano i cristalli quindi danneggiati. Sono andato su internet per vedere quanto costa, solo il pannello costava 300 euro, e ci teso come che recuperavo il pannello, ma ti innandi. Ho giocato a pezzi e si è aggiampato, comunque le schede ho recuperato, che sono buone, le casse, tutti i pezzi buoni, là. Ma a cristalli liquidi non c'è un pochettino tramontato, è tutta la lente, sto dicendo adesso. Sì, cristalli liquidi, il pannello frontale, non so so che sono a LED, lo so. Io riparo i televisori anche, Tony. Me ne hanno regalato uno, anzi due. Uno l'ho già riparato, lo sto usando adesso, un Samsung, 32 pollici. L'altro ci manca il pannello. Adesso appena, già, me lo devono dare comunque, dai. E mi sistemo anche quello con 32 a LED. Ma guarda, io ne ho uno 40 pollici e l'altro 32 a LED. Quando ho comprato quello grande, ho sostituito quello 40 che era in cucina, ho messo quello 50, il 40 ho messo in camera da letto e il 32 l'altro mia moglie. E comunque già, è il casino riparare, infatti c'è un mio amico che ne ha uno a 50 lampeggia, infatti ho solo i LED da cambiare. Ma vediamo che insomma, come l'ho trovato io pure qua. E tu Gianni, insomma fammi capire, quanto niente ancora c'è il tempo? Io mi auguro poco, Tony, adesso devo fare la prima visita, il 30, devo fare la lastra e poi mi fanno la visita e mi diranno quanto dovrò stare, perché per guidare mi ha detto ci vogliono almeno 3 mesi, ma non sono fermo, io cammino, con le stampelle, cammino anche un po' senza, però mi stanco subito perché mi fa male, male. Ma sei in malattia, così è? No, io non sto più lavorando, Tony. Sei in pensione? Mi hanno licenziato. Che bastardi. Perché ho fatto questa malattia e ho finito il periodo e quindi mi hanno fatto fare tutte le ferie, tutte le permessi e alla fine mi hanno licenziato. Vabbè, adesso devo andare all'ispettorato del lavoro, mi hanno convocato dall'ispettorato. Ma le denunciate? No, negativo. Se fanno le cose bene non li denuncio. Se fanno le cose bene che mi danno tutta la liquidazione e cose, tanto io qua, mi mancano 2 anni, poi me ne vado in pensione, mi gestisco questi soldi così e poi vado in pensione direttamente. Quanti anni c'eri da? 38. 8. E della domanda è quota 100, non la fai? Non ci arrivo perché ho 60 anni. È 38, 98. Io le supero, però non me l'hanno accettata perché ho già un'altra pensione, un introito di un bel po' di chilolire qui. E mi hanno detto, se rifiuti quella ci manco gioco. Quasi 1000 euro devo rifiutare. Vai. E allora quindi automaticamente già. Ho detto mi faccio l'altro anno e no, l'anno scorso ho detto altri 2 anni mi faccio ciccia, quindi l'altro anno per la pensione con la macchina. E infatti se ce la fai tu lì, ma io ho problemi, già ne parli al verticale. A Luca ce l'ho visto una volta a scuola, ragazzi. E poi sparito, vero Luca? Ci vedevamo spesso, là. Sempre con quel collega, sì, che tu balatto. Ma guarda, aspetta, chi collega però? Quello pelato. Ah, con Gianmario? No, per carità, no. Oggi, cioè, vuol dire lo combacio Barra, quello di Florina, che era assessore prima, troppo dopo. E di centro l'ho avuto con lui, stava guidando. E oppure sono con Michele, uno di sotto, là, 100.000 volte in campa. Tony, ganno era, boh, stavo bene con la scuola, mi volevano bene, la verità. Istituto d'arte, certo d'arte. Sì. Ho detto, è un bel po' di anni fa. Io a me mi lasciò che viene sulle palle, quella che ho con a fare con le ruote, che non si rimisava mai dalla catena. E sono i piccitti. Non ne ha un chiaro, dice lei, il marito è Bruno, che lavora all'Ipsar. Ah, ho capito. Per carità, Dio le fa fuori a coppia, pucci. Vabbè Tony, se vuoi fa. E io andavo volentieri e per quello che mi davano, cosa vuoi fa? Io pigliavo 400 euro mesimi. È una cazzata, se prima pigliavo 1.000 euro le prendo, fate il conto, e per 400, vabbè tu dici meglio quello che tu, c'ha ragione. È iniziato una cosa minore, beh, bianchina, è portavito, a purì, fa, via casino. E lui, un lavoro non ce n'è, quindi è un casino. Già, ma io mi meraviglio una cosa, questo cazzo di coronavirus, come mai queste cazzo di righe non lo prendono? Non ti ho capito, Tony, perché stava parlando mio figlio, dimmi. Ho detto, come mai questo coronavirus i tigri non lo prendono, ragazzi? Ah, no, non lo so, non lo so. Forse attacca solo l'H alla pelle bianca. E manca le donne lì, poco le donne, lo sai tu lì. No, speriamo che scompaia tutto, va. Hanno fatto il voto alla Madonna delle Grazie, speriamo che ci fosse la grazia. Oh, io sto facendo quasi di giorno, vai. E grazie a Dio non mi hanno mai fermato. E mattina di sera, vabbè, ho sempre la scusante, ho da andare alla farmacia, ho da fare un po' di spesa, quindi ecco qualcosa ho messo la casa piena di provincia, ma dai. Male, Tolino, si esce. Dico una cosa, che io sono molto molto distante da uno all'altro, c'ho la mascherina e quando arrivo a casa mi cavo i morti e mi lavo anche le mani e mi disinfetto. Mia, ma tu non lo sai se sei portatore, capito? Ci sono persone che non hanno nessun sintomo, sono asintomatici e poi contagiano gli altri. E vabbè, comunque. La cosa, l'ordinanza è quella di non uscire solo per cose necessarie. Adesso stanno sequestrando anche le macchine. Se ti trovano che tu non hai un motivo specifico per uscire, ti pigliare pure la macchina. Ma io i motivi ce l'ho. A voi la sezione è poter dire quando vuoi. Soltanto sì, non mi gratifica, cioè, di stare in casa, cioè di uscire. Io posso stare anche in casa perché tanto sono in campagna, sto bene, guardo una cagina. Solamente buttare la spazzatura devo buttare per forza, devo uscire in macchina. Perché qua, casualmente, non ce ne sono. E poi di strada la devo fare. A parte che sono in santa, ripeto. Vabbè, la carichi tutta insieme una volta e via, se la butti per una usa. Già io la butto una volta alla settimana, c'ho il cortile grande qua, giardino, c'ho un bidone grande, e dentro casa c'ho la pattumiera piccolina, quando si riempie la busta, faccio un paio di nudi, la butto nella pattumiera, che c'ho quei sacchi da 1,20 m. Quando poi fine settimana è pieno, lo blocco e lo butto via. E non fai differenziata? La differenziata, anche se la per cui è differenziata che dove ne ci sono i cassonetti le posso buttare dove non differenziate, perché dico una cosa, allora tempo fa a Trucco Reale ci lavorava anche un cimino, voglio fare i nomi, che faceva la differenziata e c'era un padre di famiglia, li hanno licenziati e poi dovevo farla noi in casa, ma tu sei manco. Un uomo poi ha scritto sul giornale che praticamente si è affacciato, ci ha messo roba 2-3 ore anziano a fare la differenziata, l'ha messa giù nel portone, fuori di strada, è passata la macchina della Montessa e ha tutto buttato dentro, si è incazzato, ha fatto casino questo uomo, da quella volta ha detto non ne posso più. Vabbè, ma se ti ragioniamo così non si discute, non si differenzia mai, ma no, io la faccio, dico la verità, la butto ogni giorno, plastica, indifferenziato, umido, vetro, insomma, carta, tutto carta e cartone, io la faccio differenziata, la verità, poi la mia parte ce la metto. Gianni, dico solo una cosa, allora innanzitutto io la farice non ci farò pagare, perché tu sappi una cosa, con questa differenziata loro hanno già il piatto pronto, si base un casino di dinà, non sai la roba che fanno con la roba differenziata, la plastica, il vetro, è un bufonesse, tu a me non mi fai pagare la tassa e io te la faccio differenziata, non posso tenermi tanti cassonetti in mezzo alle palle, ma ne so perché io sono in campagna, ma uno che abita in casa, l'umido, se mangia peggio, mi dico, uno due dì, deve tirare un fiato in casa, perché l'umido passa il sal giorno, ma stiamo scherzando. No, noi ci abbiamo i cassonetti vicino, però io ho praticamente a piramide, c'è il cartone, il vetro e la plastica lì, sono una sull'altra, e poi c'ho l'umido differenziato sotto il lavandino, e la faccio così. E se poi ti tocco quei cassonetti? Questo te lo sto dicendo perché alle luci gialle, io buttavo l'assi nella saltatura, hanno tolto tutti i cassonetti e fanno casa per casa, e se domani le toccano anche a te, tu cosa fai? Ti metti in casa tua e tutta la luce. Quello lì già è brutto, se pulisci il pesce specialmente d'estate è un casino. Lo so, però purtroppo, vedi, stanno facendo così, se no stanno multando. Addirittura vicino a casa hanno multato l'anziano che ha lasciato la carta nelle bottiglie, e dice che la doveva a Toni, l'hanno multato. E allora l'avrei buttata pure a capo io, ma è tornato che si è incollata quella carta, per carità. Abbiamo lasciato il parcheggio a Eugenio, Eugenio riprende, scusaci. Sì, sto fatto. Eugenio deve essersi addormentato. Luca! Eia, positivo è Caparroge, sono qua. Vabbè, un casino è Eia, poverino. Mi c'è coso qua. Conte mia, adesso. Io ma cosa sento? Vediamo un po' cosa dice, a Rai 1. No, aspetta, no, a Rai 1 no. Aspetta. Oh già. Gianni. Cioè, va a vedere un figliolo da lì. Beh, ma Luca, dimmi una cosa, come ti metti su questo canale di... Poi prima del Sino c'è mai nessuno, c'è un quarto, c'è mezzo, boh. Tony, dipende da... Mario sta facendo cosa, Gianni sta facendo roba, Claudia fa di cosa, dipende, o te voti assieme oppure votate, ci sono due persone, tre persone. Dipende, Tony, non è più come prima, no? Sono 9, 9 e mezzo, 10, non vedi nessuno. Attento, gira il canale, c'è nessuno, sta che la attacco alla fine, però. No, allora non c'è più nessuno, ci dobbiamo organizzare, dai. Tanto questo non si può uscire, ci facciamo due chiacchiere la sera. Finché reggo, E Pomponi non sta più entrato? Ogni tanto entra. E me la sua compagna come sta? So che si è ripresa, boh. Perché me l'aveva detto. Quanto è invecchiato, cazzo, Dante Lagna, si muore due ruoti, ma non è una mountain bike. Ti stanno chiamando te, per un attimo. Ehi. Urgia. Ehi, Luca. Via. E mi hanno confermato che domani mattina devo fare dall'altra. E qualcosa veloce? Ma come si, ben fatto? Questo sì. Vabbè. Normale, no? Già per collare non ho pagato niente, perché ho pagato solo l'assicurazione poi. Vabbè, sì, infortunio, malattia. Infortunio? Ero sul lavoro quando è successo il tamponamento. Ricordati che un'ora prima, un'ora dopo, sei sempre al lavoro. Se tu stai andando a lavorare, mezz'ora prima, forse mezz'ora prima di entrare a lavorare, mezz'ora dopo che tu sei uscito, risulti sempre al lavoro. Un'ora prima, un'ora dopo, allora anche il percorso ti guarda giustamente per andare a casa tua. Tu quando esci a lavorare fino a casa tua sei sempre assicurato, può dare fortuna se c'è un incidente. O quando arrivai la mattina per andare a lavorare, quello lo so. Oh già. Ehi. Aspetta, allora. E mezzo chi ti brincare a coddu o chi ti godere a becco? L'ho visto, mi mandato il messaggio. Tu ti sei riflettato. È buona burueta, no? Oia, quello è Cagliaritano, Capitarenza. Gappa. Oia. E quindi Torino è diventato campagnolo. Ah no, non sta mica male, no? Sì, non stai male, no? Anche perché se non c'è una coronavirus. A parte quello già, non devo bestiare per il posteggio. Ho la macchina davanti al mio cancelletto, sono fino a terra, in villetta, cosa vuoi di più? Ho tutto, c'è così vede tutto, poi se dovesse mancarmi qualcosa, ci metto 3-4 minuti e rimarrà stato. Vabbè, ma la casa tua è quella lì? No, lì. Ah, è in affitto, vabbè. E comunque già stai bene, un'altra cosa, non c'è traffico, non ci sono casini, in campagna è un'altra cosa, però a me vivere non mi piacerebbe in campagna perché c'è troppo da lavorare, c'è sempre da fare in campagna. Ma vai Tony. No, ma io ho il piccolo giardinetto mio, cosa saranno? 40-50 metri quadri, dai, non è via. Poi, allora no, non sono in affitto neanche, non pago una perché penso ti fa tutto le tutte. Cosa ti volevo dire? Se non c'hai terreno, sì, se c'è solo un giardinetto e terreno non ne hai, già va bene. No, le aiuole, che io mi sono fatto poi un casino, piccolo rosso, piccolino, ma i cani mi hanno fatto casino, me ne mangiato tutto. che cani c'hai? Un mansotto e l'altro è della caccia piccolino. Mansotto più giù cazzate, gatto, no, quando sono più grandi. Ho un po' ricintato, ma chi che brincali, no, questo la fa. Ui, ma piccolini sono. 4 mesi già. No, io ce l'ho, il mio c'ha quasi compie 5 anni. Il 16 di marzo. Quando uno è grande è già diverso già. Ma quando sono minoriti sono i più cazzati. Vabbè, già crescere anche loro che non piano, quando sono più grandi pure. E tu Luca, sempre giù, abiti, sempre morto. Ehi, sempre che sei in Canada, sì sì. E vabbè, poi sono vabbè, 5 anni con la compagna, sono sempre lì praticamente. La mattina sto qua, là, e poi durante il giorno sono, diciamo, là, da lì. Ho visto un'antenna da poco, al giorno veramente in 10, anche dove c'è più tempo. Sto guardando, c'è pure, chiedono di frequenza, e invece adesso ho un certificato pure da un posto che non avevo mai visto questa antenna. E Policino è entrato da? Policino, i giovani stipali di so. E bambolina Policino, l'avevo incrociati qualche anno fa, non so se 1 o 2 anni fa, a Uscià, tutti e due. Però del baracchino non ne ho mai parlato perché io nulla è zero proprio. Adesso non le ho più viste, però l'antenna a casa del padre ce l'ha sempre. Ma è quella che ci vede al chilometro. Yes. K. E vabbè, ma non ne hanno più. Guarda che ci avevano il Kimbo di loro. No, io se ce l'avevo baracchino normale, cioè, forse Mambolia ce l'aveva il Kimbo. Eia, K. Sì, già una di... Non c'è manco mezza cartuccia più, e ne so, ne mancano un bel... E poi qualche persona pure che ha detto qualche cazzata, non voglio fare nome e neanche dire altro perché tra mi ascolta, non è per tutto cazzo, a chi viene bene bisogna fare del culo attirandomi. Ma va a dire balle contro balle, cazzate, e sta disturbando televisori, ma e lui non c'ha più niente però, poveraggio. Chi è che non c'ha più niente? Gli hanno sequestrato tutto, invece tu vai su Facebook e vedi solo la tua bella stazione col Kimbo. Vabbè, dicano quello che vogliono, che si ne affutti. In realtà si sono salgo in cielo, si agisce. Ma sta disturbando una persona che conosco, io ho capito. Ma non lo so di chi stai parlando, ma da Sassari Vecchio. Fatto di altro. No, stai sicuro che se quello lì che stai dicendo tu non è anche lui, c'è un apparato omologato. Guarda, e come vai? Si azzera il televisore, due televisori. Magari c'hanno l'antenna che è capottata sul televisore, anche io disturbavo, poi hanno mandato un tecnico per fare gli accertamenti, il tecnico ha fatto un foglio dove c'era scritto che era l'antenna da cambiare, che non avevo nessun problema. Volevano mettere il filtro, questo, quello, no, tutti i troni buoni, sull'antenna nasce come te. E fatto sta che poi mi ha detto, ha ragione lì, come hanno cambiato l'antenna, ha provato tutte le case, io modulando, un tecnico su e l'altro giù, e non disturbavo niente. Come il fatto che qua l'antenna c'è la nuova, l'ha messo anche da poco, perché ci pensava appunto che era l'antenna, e invece nulla. Io cosa ho fatto? A questa persona le ho prestato il mio portatile che ho. No, ce l'ho doppio, due portatili. Ascolta, se senti la voce sua. Tant'è vero, poi dopo una settimana me l'ha tornato, ho detto sì, è lui. Un attimo, arrivo subito. Ma io, guarda, te lo dico per sicuro, l'hanno sequestrata tutta la cosa che aveva, c'è una roba omologata, ma non è omologata, c'è. L'hanno sequestrato tutto e adesso c'è un baracchino omologato e buco. Oh, a me, ripeto, non me l'ha fatto nulla. Io l'ho detto a questa persona, fai questi passi qua, poi vedi tu. E intanto gli mettono la multa lì, perché lui è in regola. Da vedere già. No, so di sicuro, io lo frequento, quella persona lì, la frequento, quindi lo so di sicuro, Tony, non ti preoccupare, lo so di sicuro, ti posso dire anche che apparecchio c'ha, ha un Polmar omologato. Ma tu ci sei la sua? Sì, certo. E nel mobiletto che c'era piccolino? Eh beh. La stazione ce l'ha lì. Ehi, avanti. E tu vedi su Facebook per tutto ciò. Ma quello lì è roba vecchia, Tony. È roba vecchia, non è roba di adesso. Aia, è là dove abita adesso. Ah, boh, non voglio insistere, comunque io so che è così, non c'è problema. Io lo so di sicuro perché ti ripeto, siamo amici, io lo frequento e cose, quindi non so com'è la storia. So tutta la storia anche. Oh, a me te l'ho accennato, io l'ho tuo consiglio. Vedi, se lo puoi fare fallo, poi. Cava, cava, cava, vabbè. E comunque a lui non gli fanno niente perché è tutto omologato ciò che ha. Vedi cosa lo puoi fare, non fa nulla. E appunto c'è un apparato solo omologato e buttato e buttato. Gli hanno sequestrato anche il Roswell e tutto. Quindi, vabbè. Cambiamo discorso. Ecco, ho capito. Io non lo intendevo su quel senso lì che lo vado da, vabbè, non mi hai capito il discorso. Avanti Luca. Luca c'è portato. Avanti, avanti, chi è rimasto sul canale 10? Oh, attenzione, binario 10, c'è qualcuno, tutti i fuggiti sono. Allora, poca niente, Luca! Ma speriamo che sempre non rientra qua, così almeno ci sarà anche lui frequente. Ma Stefano entra ben poco, mia, che quando c'è, non c'è. Qualche volta entra così, entra poco. Adesso mi è partito il Galaxy, a me non lo posso variare. Cosa ti è partito? Il Galaxy esce praticamente con la lancetta del modulatore, si muove fondo scala, però non esce di radio. Praticamente deve essere qualche resistenza che c'è nell'audio, nella parte audio. Ah, io ho trovato proprio il Galaxy Saturnecco, stazione base, uno di fuori, adesso me lo deve spedire, ne ha due uguali, uno con le manecce e uno senza. Quello senza manecce 200 euro, quello con le manecce 300 euro. Senta chi cazzo vuoi? E quant'è la maneccia? No, io l'ho pagato 200 con i manecci, con tutto nuovo, non c'ha un graffio. Ma da un privato? Ehi, me l'ha venuto Gio Maria. Ah? Vabbè, io se lo trovo lo prendo adesso, quello quando spedirmelo. Un altro mi ha detto, quando ho preso l'ancora, dice mi mandi su, dica in fretta. Ho detto contrassegno, quando arriva lo pago, dice no, non le faccio così, era tenuto il conto. E lo so, ce n'è un bel. Dopo magari non ti spediscono la roba, come hanno fatto con me su internet. 200 euro mi hanno rubato proprio col Galaxy, a me e a Maestrale. E vedi che non mi piace, dice, ho un altro è problematico, posta IP, è più sicuro. No, tu me lo mandi, a me ti pago anche il prezzo di spedizione, quando mi arriva pago. E anche io sono di quel parere, tu dici, a me mi hanno rubato 200 euro, a me 200 euro a Salvatore Maestrale, che ci avevano proposto due Galaxy avanti del magazzino in un negozio, ancora scatolati, e ci regalava anche il microfono amplificato. Beh, 200 euro, abbiamo fatto questo bonifico con West Union, che era un modo di pagamento che non lasciava tracce né nulla, ed era praticamente un'organizzazione che si spostava da una città all'altra. Abbiamo telefonato e ci ha detto sì, ci manda i soldi, noi glielo spediamo subito. Beh, fatto sta che i soldi li abbiamo mandati, ma parecchi non li abbiamo mai visti. Vedi, io non l'ho mai fatto una cosa del genere, perché da lì ho sempre pensato questo. Se questo non ti manda niente, cosa lo denunci? Cioè, ti costa più l'avvocato delle 200 euro che hai perso, no? Non mando niente, quando mi arriva il pacco io te lo pago fino a zero. Io sono andato alla polizia postale e mi hanno detto, guardi, è un'organizzazione grossa. Soldi a palazzi, si sposta in alberghi di prima categoria, donne, champagne, però lo sanno che prima o poi i ferri li dimettiamo. Ma trovarli, dice, è molto difficile perché si spostano, usano questa carta in Inghilterra, c'è questa carta che prendono solo le telefonate, però poi praticamente la buttano via, è come se non avessero mai avuto questa carta, capito? E si fa paga questa carta solo per ricevere le telefonate. Tu telefoni a quel numero, loro ti rispondono, quindi sei convinto che ti mandano la roba, perché sembrano persone molto, ci sanno fare un mega. Capito? Sì, sì, guardi, se mi manda i soldi non c'è problema, guardi, al più presto rispediamo tutto, è bello e malato e tutto, capito? E hanno fatto un sito addirittura con l'autotrasportatore, tutto quanto fatto bene, capito? C'era scritto che aveva preso 5 stelle, era un seller di quelli, capito, rinomati per le vendite, eccetera. E niente, ci ha fregato. Già, tu hai fatto male, vedi, beh, io no, a me ha proprio i soldi a mandare così una cinca, no. Io sono sempre stato il tipo, già, la cosa la devo comprare, la devo vedere, toccare, allora la compro, se no nunca. A poi rimane da fuori, tu mi mandi la roba, a vedo se è vero va da chi, se no non fa così il tiro. E apro pure il pacco, non me ne funziona. Sì, vabbè, volendo ti fregano lo stesso, ti muovono in un cantone, dentro un bacco. Tu sei convinto che verrà parecchio, poi va a aprire e ti trovi il sassolino. No, io ho detto che apro il pacco, non hai capito. Una volta una sono andato mandato da Rito, ho detto devo aprire il pacco per vedere quello che ho chiesto. Dice non lo può aprire, se lo porti dietro alle verci. Ma come non lo puoi aprire? Ah, aprirlo davanti al corriere. Sì. Mi sa che non si possa aprire, dire, davanti al corriere. Che te lo devi aprire a casa. E lui cosa si può fare? Lui il trasporto è buono, non è che c'entra nulla, no? Comunque. Io non mi porto mai bottiglia, mai che dolce. Paga, vabbè, e comunque la fregatura la prendo una volta, poi dopo poco tempo mi telefona un amico da Roma, un amico di Sassari che lavora a Roma, mi ha detto già, siccome abbiamo la passione della fotografia tutti e due, ho trovato una Canon 6D che qua costa 1400 euro, lì la sto pagando 700 euro. E con cosa la stai pagando? Con Western Union, non i vari, ha giudito, bloccato. Invece l'amico l'aveva già mandato su, e l'hanno fuggito 700 euro di colpo. Purtroppo, bisogna che lo dico la cantina notizia, di che butti dura, ma per niente finire soldi, ci metto due volte. Vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare sul canale 10, avanti se c'è qualcuno. Ehi, avanti, avanti. Sì, ti ascolto, Fra, ti ascolto. Non so se ti ascolta Tonino. Proprio quasi zero. Ah, sai chi è? Franco California. Franco California, ciao Franco, mi dispiace ma non ti sento, ma di te. Franco, lo ascolti a Tonino Cavasani. È in campagna, Franco, stiamo andando alla campagna. Ma in casa, Fra, non è più antenna. E non ne piace più. Mettiti quella come quella che c'ho io, che senza radiali, di lusso, la Game Master, costa un po' di soldi, ma ti regge 160 km orari. Quella è bella, anche con FDX tranquillamente, no, è una bella antenna. E tu dove l'hai presa già? Su internet. Hai fatto buccia? Io ho pagato 145 per fare l'antenna, più le spese di spedizione, mi è venuta sulla 160-170, adesso non mi ricordo. Però è un'antenna fatta, non è di coso, di alluminio, è fatta tipo materia plastica, e all'interno passa un filo, praticamente un dipolo verticale, passa questo filo che poi tu, a furia di alzare l'antenna, incastrala una con l'altra, il filo rimane in tira, capito? Alla fine poi in punta c'è una vite, si avvita e si mette il tappo. L'antenna pesa 2 kg, pesa 2,5 kg, non pesa nulla. Ma io c'ho, hai capito quale c'ho io? 3 radiali. E quella ci contava adesso. Però non mi piace. Tanto ma una e poi era buona, finite 2. Ma quelle sono un bel pesanti, Tony. Se ti caggi di antenna fate un bel di danno. Se caggi la mia fa un graffietto, non fa niente. È leggera, 2,5 kg pesa. Ma tu che zona sei adesso, già? Mio amore, amore. Ma sempre dove sapevi voi dove abitavi prima tu? No, dietro via Baldena, alla fine di via Baldena, dietro. Ah, capito. Ecco perché arrivi forte qua, eh. c'è tutta la zona libera lì. Anche io ti arrivo del scritto. Prova. Uno, dove scrive prova? Rugline via. 6925. Anche tu, uguale. Radia bomba. Cava. Ma è quello che mi dispiace, il Galaxy che se è partito. Adesso non so dove portarlo a aggiustare. C'è una cosa che era bravo aggiustando lì, Mario M2, ma non c'è più tra questi, che fine ha fatto? No, Mario M2 sta piazzando impianti stereo, roba così. C'è venuto anche in negozio da poco a piazzare tutto l'impianto microfonico che ti chiamano dalle casse, tutto quanto, l'impianto stereo, eccetera, eccetera. Allora già c'è ancora, non l'ho più visto, ma sempre mi limita. Non lo so, non te lo so dire, Turini. Ma ci siamo fermati a parlare, la verità già mi ha riconosciuto. Vabbè. Niente, una volta ho sentito Gio Maria, ho detto mia Gio Maria. Chi è? E non so che è entrato. Non mi ha riconosciuto. Perché tu prima uscivi prepotente con una microfonia un bel forte, capito? Adesso sei tranquillo, sembra che ti sia calmato. Ma non è così, no. Forse come ho fatto di prima. Mamma mia, se mi ricordo con quel 112 a 180 km orari vicino a Corso, vicino a tutta vibrando, casa di macchina, casa non veniva mai via a camminare. Vicino a Marini, me lo ricordo ancora. E poi al quadrato ho fatto la scommessa con Corso, con Pietro Volvo, oggi con Tuponetti con la Volvo. Ha giocato di brutto qua. E camminava quella macchina, specialmente le quattro marce camminava un bel. Là, ma c'è stato anche qui. C'è una bella macchinetta, era lui. Sai che non mi ricordo che ce l'avevo venduta o che cazzo l'ho fatta, poi ricordo più. Io mi ricordo che c'aveva il cielo che ne stava scendendo, quello me lo ricordo. Mi sembra che non me la metto. Vedi, io mi ricordo tutti i particolari, magari devo fare una cosa, ma vado a farla e poi non mi ricordo cos'è, ma le cose di tanto tempo fa mi ricordo tutti i particolari. Avevo messo le PC sotto, cazzo poco teneva, mi ricordo quando sono andato a Ovvia, avevo una Alfredo 2000 turbo diesel, cazzo non riuscivo a prendermi, no, e io si cazzava e definito, si avvicinava, arrivavano le cuve, la strada vecchia parlo però, cazzo io me ne andavo, e poi io. Vieni con la peste, avanti Franco. Eia, cosa Franco? Che cosa? Sì, già va bene, dai, già ti sento abbastanza bene adesso, meglio di prima. La radio è meglio di prima, il segnale più o meno è come prima. Prof, no, sempre uguale Franco. La radio va benissimo, dai, ti ascolto di radio, basta quello. Interessante sentirsi, avanti Solino. E sto pensando invece adesso quale fio dove eliminare io, se la calza o un altro fio, il fio giallo, boh. Perché 3 più 3 mi picchia, cazzo, io mi trattengo un casino, cazzo. Magari devo eliminare qualche cosa, qualche filo. Eia, qualche filo devo eliminare, perché cosa 3 più 3? Quando ce l'avevo tempo fa, che poi l'ho tutto dato a Cinco, Emanuele, e anche Galaxio l'ha preso per filo, che ce l'ha venduto Guido, cazzo. E mi ricordo che il 3 più 3 che avevo adattato era 3 fili, con 4 fili non andava, con 3 sì. E ho pensato che anche questa è la stessa cosa. Probabilmente, se è lo stesso microfono, è lo stesso baracchino, è uguale. E fai le prove, Tony, scusa, prima provi con uno e poi provi a eliminare l'altro. E ci sì. E devo provare col PA prima per la radio, capito? Ma già lo facevi, tu già me lo ricordo, ti riattaccavi i microfoni, cazzo, con le pinzette, con il coso, avevi tutta l'attrezzatura. Il manca dentro, non c'è problema. C'ho anche un saldatore professionale a filo continuo, e l'altro lo fa, manca il sole. Ma la passione poi te l'ha passata oppure te l'hai venduto o che cosa? No, me l'ha passata la passione, proprio, l'avevo più gara, boom, è sceso. E ho tutto venduto, quanto l'avevo dato, non mi ricordo, c'era 500 euro a Emanuele. A Emanuele... Chi Emanuele? Ponzio Pilato? No, Cinco, Emanuele Lai. Ah, l'amico di coso, di Luca Flippa. Esatto, e allora lui era, Como era. Ci siamo trovati all'aeroporto Linate di Milano, perché sono arrivati in aereo. All'aeroporto di Pettiglia, la valigia. E cosa c'ha lì qua? L'ho preso baracchino, ti ho preso, ah, ecco qui. Allora, scritto il terrorista. Hanno invitato un baracchino, ce l'hanno fatto portare in aereo. Sì, sì, però la valigia ho messo sotto la pancia l'aereo. Ho capito. Era parata in mano. E anche l'antenna avevo, una bufera. E tu dove stavi andando? A lavorare? No, io sono andato a Milano perché già avevo già lavorato in mezz'oretta, che abitiamo lì a Milano. E già che c'ero a Emanuele, sono Emanuele, dove devo andare a mezz'oretta? Un mese e tutto, quindi salgo su, ti porto anche il baracchino. Ma tua sorella, quella che stava a Porto Torres? Bravo. È morta, Sì, 10 anni fa, come si attenta. Se non lo sapevo. Lo sai che ogni volta che passavo in quella casa mi ricordavo di lei, dicevo, mi qua abita la sorella di Torino, tra me dicevo, però la vedevo sempre chiusa quella casa, ho detto, non lo sapevo. E ci abita mio nipote adesso lì, anche il marito è morto, mio cognato. Scappa, quello cosa faceva? Che lavoro faceva? Aveva soldi quello lì? Lavorava la CIR. Ho capito, e vabbè, se la vi, era grande, io mi ricordo che era un ragazzo e lei era già grandetta di età, vero? Ma ti dirò la verità, che quando è morto aveva 62 anni, 62, 62 era morto. Come mia sorella, mia sorella lo stesso è morta. Allora, quel male al pancreas. Allora, lì a Milano andava la sorella dottoressa, la sorella mal di stomaco, mal di stomaco, e lei dava il coso per lo stomaco, e dava. Alla fine poi, dopo quasi 2 anni, non ce l'ha fatta più, sono operata. Hanno fatto la vita, quanto me lo devo fare, ho detto 4 mesi di vita, infatti 4 mesi è buona. Oh, yeah. Ce l'aveva già sparso, là, in metà. Sì, che poi si è mangiato l'ufiga, tu si è mangiato il più buono, tu si è mangiato. Oh, yeah, yeah. Male di cavolo, poi a Porto Torres, guarda, è una cosa che non si crede, non si sente altro che quello. Sì, anche il marito di mio cugino è morto, capito, a Porto Torres, per carità. Avere il satellite per la fine grigia. E l'aria che c'è, vabbè, adesso la zona industriale si può dire che ha smesso di funzionare, dai, c'è poca roba. Ma dice che è la notte che brucia la roba, la nocciva. Hanno trovato anche delle fosse, hanno trovato roba nascosta sottoterra, nociva, altamente nociva. E quello aveva fatto quello sale, ha fatto questo casino qua. E poi nessuno vuole parlare, capito? Sanno ma non parla. E Massale l'ha fatto per entrare in provincia, ha fatto un casino, è entrato, poi ha fatto uscire il Giappone, e è sparito. Poi purtroppo la zona industriale ha fatto mollare un po' di gente la campagna, la pastorizia, la cosa, perché vedevano che si guadagnava meglio senza stare troppo esposti al freddo e fare sacrifici, eccetera, eccetera. E adesso che ha fallito, la gente è rimasta senza una cosa e senza l'altra, che si aveva venduto tutto. Allora, hanno rovinato il mare, perché Porto Torres purtroppo era un bel mare, infatti tu Murene là non le truffi, il Murene non è mai pulito, dove l'Argentiera lo truffi, Porto Conte, però Porto Torres e Murena non sa, il mare è troppo inquinato. Gronghi già ce ne sono, gronghi, te ne ricordi tu lì quando andavamo a Molo Catania, ogni abito di voi poi, tanto che c'è una piombra. È un viaduto a 9 kg, che poi a 5-6 kg, andiamo con Mario Barbariccio a pescare. Andiamo oltre a Trentino, ti dico particolare perché c'era anche Mario Barbariccio e la moglie. Vicino di fronte alla torretta, c'era mia moglie, Rita Pasquetta, la moglie, e metto la sardina, metto il tiraggione, e lui, meno che vuoi, però mi guardo il mare, mi faccio, oh Mario, non sai perché non prendo ancora il polpo, lui, perché ci sono quei due subito, stanno prendendo le palle al polpo, vedrai che quando si nana, le giorno migliore poi, poi guarda, lui è stato scherzando, ti giuro, non dico palle, però fastidio da Mario, se ci sono insieme. Come se ne sono usciti in quei zumbi, mi tira la campana un po' fa 5 kg. Ma detto, ti culo a moglio! ma che mi ricordo che siamo andati anche insieme a Molo Catania a pescare. E avevo pigliato un grongo io pure. ce n'era lì, prima a Monocattaneo pescavo certi orati, io belle, me ne ricordo, oltre ai filaccioli mettevo anche le canne, ho preso dei bei pezzi al faro verde. Io una volta sono andato a pescare a Casesardo, nel porticciolo, però sono andato in punta sulle rocce e c'era una tana particolare, perché io andavo di giorno e me ne sfruttavo per controllare bene queste tane qua. Questa scendeva giù, poteva spostare il falo dondolare, piombo con l'esca verso destra e scendeva ancora più giù, scendeva. Mi ricordo di andare con un amico, non mi ricordo chi era il pastorotto, che poi non c'è venuto, è stato da solo. E già, ti dico una cosa, ho messo la sardina, butto giù, metto la campana. Come ho legato la campana, parte la campana, mi sono convinto sul canto, il canto, l'amo pulito, metto la sardina, metto dentro, metto la campana, boom, di nuovo, cazzo, da davvero di punti, lo tengo in mano. Butto la sardina, metto la rete in mano e senti uno strappo come anche il braccio mi ha passato, che cazzo c'è? Ho messo la cornetta, me l'ha drizzata, me, e ha mangiato quasi un piede di sardina, non ci vedo nulla, non ci ho pigliato. Cos'è? Che birania! Capita! Magari c'è il pesce furbo che riesce a tirartela senza agganciarsi, capito? Te la strappano e riescono a scappare. Ma io ho chiesto anche pescatori anziani, chi mette il pesce serra, chi mette altri cose, proprio. Comunque dico una cosa, già, per esperienza non conviene mai andare da soli a pescare. Ah, lo so, A noi una volta sono andato con un amico, prima stavamo andando a Stintino, prima ci ferma la partita dei carabinieri e ci puntano il fucile addosso, il coso del mitra. E questo amico mi ha detto, scusi, ma non togli il mitra dalla faccia, perché ha detto, abbassi il finestrino lì, abbassate il finestrino, ma non togli questo cazzo, stavano tremando, erano i polli giovani. Ha detto, mi tolga il mitra dalla faccia, che se riparte qualche colpo mi ammazza. Io non so chi siete, documenti, ci andate dalla macchina, mi apre il cofano, questo e quell'altro, bumba. Va bene, nel frattempo passa una macchina, un'altra macchina sparata, cazzo, ferma quello, cazzo, non era la partita dei carabinieri, dei colleghi, cazzo, troppo non c'hanno ragione che ci fanno le barzellette, l'ha detto. Beh, fatto sta che facciamo amicizia poi con questi carabinieri, stavo a parlare, dove state andando a pescare, e dove andate, che poi veniamo a trovarti, e gliel'abbiamo detto, e siamo andati a Grunghi, no, abbiamo messo i barattoli con i filaccioli. A questo punto sento Antone, il barattolo, se non era gaggio di Giosso, a capo in Eva e a testa in giù, tutto gatto ferito, tutto gatto. Meno male che sono arrivati in quel momento i carabinieri, beh ragazzi, pescando state, io aiuto, sono qui, come è successo, hanno preso le pile, sono scesi, mi hanno aiutato a portarlo su, cazzo, l'abbiamo portato prima alla guardia medica, da voi a rifidarsi. La spalla che era spostata, tutto in faccia tutto gribbato, insomma, lasciamo perdere, non ci vado più di notte. Ma a me io andavo sempre nei posti che conoscevo e c'era luce innanzitutto, a Catania andavo sempre nei posti che ci vedeva, capito? Perché mi scordavo la zona prima e poi apportavo luce, ma un po' di luce. No, mai più di notte, ha scivolato in quella merma che c'è negli scogli, ce l'è presente, ha scivolato ed è caduto giù, e per fortuna non si è parato di neva, perché era svenuto, si è caduto con i capelli che gli stavano a pelo d'acqua, proprio toccavano l'acqua i capelli, però la faccia no, grazie a Dio, non si è parato col, se no sarebbe crepato. È pericoloso, quella di quella bambina che ma chi c'è per dirci che ha un peppa? E poi è morto anche quel coso, Giuseppe Genius Mezzana. Questo non me lo ricordo tu. E perché ci pizza. Entrava, cioè lui era sposato con la sorella di Gianni Sassari 2, a Fiocchi. Magari la conoscevo anche, ma non me lo ricordo. Sono passati un bel anni, di 40 anni fa siamo a vedere di tutti. E anche Gianni Sassari 2 è morto, era a Milano, è tempo che tu lo è. E sono molti CB. Quello che mi è dispiaciuto molto di Giampaolo Bavaracci. Si pensa, me l'ha detto stesso Stefano, me l'ha detto. Del cavolo. E io infatti passavo a Provotorio, già andavo a Tramaco lì, alle scuole, nautiche, cosa. E poi sono venuti i miei amici qua, abitavano sul vento. Sì, infatti ormai la terra sarà bucato, e poi fece, dopo che era morto. Noi siamo andati a trovare all'ospedale, io, Claudio e Stefano, già fatto un grimba dalle risate, eravamo a vedere di una tipa che ci va via, ripeti, cazzo, che va via di un nido di curracci. Ma di cosa è morto già? Lì si è crepato la bile. E lui aveva diversi disturbi, l'avevano ricoverato in quel reparto a lunga degenza. E era tutto pieno di ematumi nelle gambe, tutto. Non circolazione del sangue probabilmente. E poi è morto anche corso. La guerra è girata, Nino e San Giovanni. Nino, coso, come si chiama? Bravo Charlie. Che poi si è sposato con la sorella, non con niente, così sempre in Italia. Lui si è sposato con la sorella, Totelia, mentre Giuseppe con Caterina. Nino e Tore, tutti e due me li ricordo, San Giovanni. C'era anche Tore, che Falcone entrava, prendi quella barba! Adesso mi alzo, guardo un po' di TV e preparo qualcosa mentre sotto i denti. Vabbè già, mi ha fatto piacere, dimmi quando puoi, mi avvisi, quando stai meglio, che ci vediamo, ci beviamo un bene olimpico, quando finirà giustamente questo casino, perché i mari sono più di chiusi. Bisogna lasciar passare questo periodo di cavolo, uia. E vabbè, non c'è problema, tu, quando sto meglio non c'è problema. Andave. Avanti se c'è qualcuno sul 10. Ciao Tulli, ci sentiamo, dai. Ok, ciao già, ciao. Ciao Cavalza. Ciao pure te. Franco. Già io stavo facendo roba qua, dai, quasi finito, va mille mani adesso. Stavo riparando un telecomando, però no, non va bene, dai. Il volume non solleva, abbassa, poi tanti tasti non funzionano. È nuovo, mi ha preso acqua. E allora, come te la cogli tu? Antonello? No. Sì, avanti. Uia. Non avevi gana, casi, ho capito, faccio correttiva. No, non c'è nessuno. C'è qualcuno su 10? Oh, buonasera. Oh già, guarda come va questo microfono. Va bene, Robè. A me mi si è crepato il Galaxy, lo sai. E come fa? Praticamente il modulatore funziona, quando va a modulare funziona la freccetta, va a fondo scala, però non mi sento. Come non ti controllati le connessioni del microfono? No, non è quello, no. L'ha già fatto e Fabrizio mi aveva cambiato un pezzo. Mi ha durato, cosa ti posso dire, un paio di mesi e poi di nuovo l'ha fatto. Vabbè, quello che ha Fabrizio che già è bravo, dai. No, dimmi la radio, il livello della radio, come sto provando un'altra regolazione, sempre quella Dunis famoso. È una radio 5, roba è presente, tranquilla. No, io sto parlando di livello di radio, non di qualità, perché siccome c'ha due possibilità, con un compressore e un espansore di dinamica, cioè guarda se posso alzare più o è normale la mia? È normale la tua, se puoi alzare di più, alza di più. No, dico, se già va bene non la tocco, rispetto all'altra regolazione che avevo prima, è più alta o più bassa? No, va benissimo. Allora, questa qui è una radio da salotto, tranquilla, pacifica, non disturba ed è presente, ecco. Se poi tu la vuoi alzare di più, vediamo se va meglio, se va peggio. Adesso l'ho alzata un peluzzino, cosa va? Così puoi lasciarla tranquilla, dai. Lasciala così che un pelo ha aumentato e va bene così, è proprio bella, più presente ancora adesso. Ok, va bene, l'importante è che funzioni bene. Ok, c'è qualche donato qua sul 10? C'è la Luca, ma dice che stava facendo cosa, non lo so cosa. Poi c'è la Franco California, non risponde. C'è la Tonino, se n'è andato via. Chi è Tonino? Kawasaki. Di dove? Ma di Sassa? Sì, di Sassa, è un vecchio CB, è un vecchio CB di vecchia data. Non ho mai sentito. Franco California, so che 20 anni che non lo sento più. Ritornato? Sì, stavamo trovando la campagna. Ma perché non abita più al monte? Sì, abita lì, ma penso che la ragazza si abiti in campagna. Come la ragazza? La compagna, dai, come la vuoi chiamare? No, ma il mito non è ragazzino, Franco. Sì, ragazza o compagna, come la vuoi chiamare, dai. Praticamente sarà in campagna della sua compagna. Infatti mi stavo avendo il dubbio, ho detto, ma Franco California non è un ragazzino, è grande, più grande anche di me, lui. Per questo, che è quella ragazza? Ho detto, non è che sarà un altro Franco California, perché Franco, io penso ci abbia una sessantina d'anni, 59, quanti ne avrà? Franco deve essere più giovane di me, ne ho 60 io, e lui avrà, penso, 56. Vabbè, comunque non è un ragazzino, dai, non è vizio, ma scusa il telefono un attimo. Cos'è? Sei sbirzi. Arrestato ti stanno, Robert. Aspetta, mi ha mandato un messaggio marina vocale, aspetta. Sì, che brutto però così, stare separati. Chi è? Roberto, ci dobbiamo preoccupare, padre. Alfredo. Ma hai sentito la sirena, cosa sta parlando Roberto? La soleria che c'ha al telefono. No, ti ha arrestato. Io ci avevo, quando mi chiamava il CISO mi suonava la sirena dell'ambulanza. Hai visto come l'ha fatta quell'ambulanza? Io e vedi tu, poi dal tetto mi è caduto, ha senso secco piano. No, per me è un miracolo, non è possibile che sia uno che cade a 5 piedi con una iatta, oppure lo si salva. Senti, fuori di capo già. No, ma lui non l'ha fatto perché non voleva fare, lui mi stava minacciando che si buttava dal tetto, non so se era per il lavoro o che cosa. E tornato indietro, ha inciampato nel cornicione ed è caduto giù all'indietro, non l'hai visto? Sì, l'ho visto. Fuori di capo. Magari voleva solo intimidire le persone, no? Intimidire le persone, perché non penso che lo volesse fare, capito? Vabbè, succede, io non avrei avuto quel coraggio. Io non ho il coraggio manco avvicinarmi al cornicione, figurati. Te lo ricordi quando stavo piazzando l'antenna che devo far scendere il filo? Allora tu conta, quando io vado a piazzare un'antenna, secondo dove sono? Mi guardo, ma si fa un occhi su conflitto. Bisogna stare attenti. Basta che sia un po' scivoloso, cosa ti vari? Visto che poi c'è quello scivolo dove c'è il coso dell'ascensore, la cabina, che c'è quello scivolo che ti porta verso giù. Sì. È un casino già, e poi magari rifà il prezzo, ti dice che è troppo. Uno rischia la morte per 100 cagate, capito? Ci rischia la vita. Sono rientrato comunque. L'ho preso 140 a lui. 140, vabbè. Ti rilasciano il certificato, tutto quanto, in regola ti fanno, lì ti rilasciano tutto, fattura, certificato, tutto. 140 di manodopera? 140 euro in tutto. Icchiata, no, e poi sono di voi, vabbè, poi dipende dal posto, no? Io prendo di più già. Io prendo 200 e faccio tutto, ci compro tutto io. Ma questo ha cambiato tutto il cavo, a partire dalla centralina, l'ha fatto passare, le ha messo la scatola che era tutta catabrasica, non c'era manco tappo. E si ha messo l'antenna e fraccarlo. Mi ha detto che era fraccarlo l'antenna. E adesso si vedrà bene. E voi non avete bisogno manco di amplificatore d'antenna, perché siete proprio di fronte a Monteoro. Non c'è segnale che a voi vi dia fastidio, perché senza amplificatore d'antenna questa antenna riceve benissimo. E ma quante televisioni siete? Siamo 14 qui lì. Perciò ci vuole un amplificatore, per forza. E non lo so, lui ha detto così e così ti sto dicendo, ed è un tecnico questo. Ha fatto anche la relazione che l'antenna gole va cambiata, eccetera eccetera, che era fradicia e la colpa non era la mia ma dell'antenna che era già, adesso c'ha già buoni buoni, quell'antenna lì ci avrà 15 anni, buoni buoni. Vabbè, 15 anni, quindi vabbè, prima magari, ma i prezzi sono cambiati. Guarda, Antonio Riserva prende intorno ai 300-350 euro, compra tutto lui però, perciò vedi un po'. Però che ci sai, cioè là, tu sali su un tetto a rischiare la vita per 100 euro, ti basta un capogiro e sei vuotito. Vabbè, poi anche i tetti possono essere pericolosi, tegole di quelle vecchie che si fasciano. Poi basta un attimo, Lu. Sì che un terrazzo come il mio è un gioco da ragazza. Avanti, chi è voleva entrare prima? Roberto, tu sei. Allora stavo avvisando che sono rientrato, no, ma hanno chiamato al telefono prima che era Gianni. Ok, ciao, tu ci sei Luca, ciao, ben sentito, chi c'è oltre a te e Gianni? Sì, io e Gianni e basta, non c'è altro nessuno. Questo casino. Oh, Robè, stavo pensando che erano venuti arrestati, ho sentito le sirene. Ma ti piace la suoneria mia? Io ce l'avevo dall'ambulanza, quando mi chiamavano dalla sede a me mi suonava la sirena dell'ambulanza. E invece quando mi chiamava mia moglie c'era profondo rosso. Questa lo sai, la gente che si gira, sta facendo questo, molte volte diciamo non è che faccio brutte figure perché in certi punti magari lo spengo prima di entrare, se entro in banca, alle poste, metto il silenzioso, però lo sai, una volta in banca tu vedi la gente cagata, mentre è la guardia giurata, vento, tutti cagati, ma sta succedendo, tutti spaventati, stavano facendo uscire la gente. Quello lì è procurato allarme, Robè, attento che non ti arresta. No, anche i carabinieri, mi è capitato anche davanti amici, carabinieri, polizia, niente. Anzi, ti posso dire, in certe situazioni secondo me è una cosa anche di soccorso, per dire io siccome vado in camper, fuori, da solo, dai, in compagnia, non da solo, se da solo non vado, però se a notte dormo in qualche posto così, se per caso mai dovesse succedere, schiacci quello lì, qualche spaventino glielo fai prendere al malintenzionato. Scappa, da dove l'ha registrata quella sirena, dalla internet? Guarda, già, non ti dico balle, quella sirena io ce l'avrò almeno, se non 15 anni, 12-13 anni c'ho la sirena. E ti posso dire, siccome all'inizio tutti erano i conquisti, vabbè adesso ci sono le suonerie multitonali, eccetera, eccetera, ma prima erano tutti con la classica suoneria, si giravano tutti per dire, il mio, il tuo, qua, tutti uguali. Io ho detto, devo cercare una suoneria che non ce l'ha nessuno. Però me l'hanno anche copiata perché un tipo, un amico, me l'ha chiesto, dammela, a due persone l'ho data io. No, io c'avevo quella faccia, pico! Si gira valutando. No, ma questo guarda, detto, un giorno mi ha fregato, cacchio, che c'aveva la polizia vicino. Cacchio, ho messo l'altro, ho detto, magari aveva rompito, mi giro c'avevo a fianco, cacchio, con la sirena, uguale identica la mia. Ma tu l'hai scaricata da internet con la sirena? Sì, l'ho caricata da internet, c'era un programma, suonerie per cellulari. A me non piacciono quelle musicali, guarda, lo posso dire, è proprio una cosa che odio. Al limite quelle con suoni che si sentono forte, insistenti, acuti, però non mi dicevate se mettere le musiche, cacchio, io non ci riesco con le musiche, mai, non ho mai avuto piacere di metterle. Deve essere un rumore proprio che lo devi sentire. Ma guardate, è forte tu, quando mi è capitato un po' di volte al supermercato, quando sono andato a prendere per mia figlia gli occhiali, non so se conosci quel negozio, mi sembra Occhi si chiama, in Via d'Italia, e lì le ambulanze passano nei 5 minuti, cagati sotto, cosa è successo? Ci ho detto, cacchio, ho detto, con quante ambulanze che passa? Sì, ma questa è la più forte delle altre. Sì, che lo so, dove Occhi, ci serviamo anche noi lì o in Via Pascoli, dipende. Compriamo molto l'acqua per le lenti. No, io grazie a Dio non ho mai avuto bisogno. Mia figlia, la grande, siamo andati perché da lontano c'era difficoltà quando all'università, vedete, quando ci sono gli slide, mettono le immagini, cioè, si forzava un po' gli occhi, ho fatto la visita, ho detto no, mettiteli quando devi vedere da lontano, mettili, così non ti affatichi. Poi costano una fesseria, guarda, io sono andato da altre persone ma mi sono spaventato i prezzi, quelli meno della metà. Sì, costano poco e lavorano bene oltretutto. A Marco hanno cambiato anche le montature oppure le lenti, quando, perché è mio per Marco, come la mia ex moglie, quindi ogni tanto detto devi cambiare le lenti perché va regredendo sempre di più. No, ma a me me le ha fatte immediatamente. Guarda, io sono rimasto, ho fatto il prezzo, io sono rimasto a bocca aperta quando mi ha detto il prezzo. Mi ha detto quando ci voleva fare, quando possiamo venire, se, guardi se vuole, erano le 7, ha detto ma non fatto bene se si ritira, cazzo, ha fatto il prezzo, perché avevo letto la montatura a 50 euro, vado a pagare, come le vuole prima di farle, mi ha detto con le lenti, con le antiriflesso normale, ha detto no, le faccio antiriflesso, e quant'è? 80 euro, ma io pensavo che erano 80 euro le lenti, sono andato a pagare 50 più 80 fa 130, no, è 80 a tutto, sa che a me, gente di altri ottici dello Gumperella, facendomi lo sconto del 50% che c'era promozione, 210 euro. No, non esiste, ce ne sono meglio, che non sono onesti, dai, che ne approfittano per il nome. Quelle di Delugu, devo dire, erano le Carrais, le migliori sul mercato, niente da dire, ma quelle Perella erano lenti normalissime, tanto su plastica una e plastica l'altra. Poi siccome questi, per il discorso degli occhi, detto non per me perché grazie a Dio non è forte, però si possono progredire, diminuire, peggiorare, eccetera, eccetera, si cadono in terra telegrafica, ho detto cosa me ne porto di 210 euro, io le spendo 80 euro, quando si rompono le biglie me ne comprato un altro paio, anzi tre paia te ne escono a Giumai con il costo di 210 euro. Beh, ero qui. E poi le niente sono sempre buone, quelle che c'hanno non c'è problema. Adesso non ne fanno più roba che non serve, dai. E negli ottici specialmente non te ne danno roba che non serve, non conviene a loro perché si fanno una brutta fama e poi non ci va più nessuno. Ok, dai. Avanti lui. Un casino. Anche io dovrò fare un paio di occhiali da vicino però, perché li prendo via Pasquali da occhi, però mi sa che non bastano più. Da 1,5 mi sa che sono, mi sa ci vogliono da 1,7, 1,6, vabbè anche da 2 vanno bene sicuramente. Io le ho prese da 3, mi stavano bruciando gli occhi, guardando il televisore, allora le ho prese da 2,5 e adesso vanno bene, erano troppo forti. Mi assento un attimo, vado a farmi l'iniezione. Sì, ok già. Una domanda Luca. Vedi. Visto che tu sei esperto di computer, e noi in officina abbiamo la linea coso, la fibra, cosiddetta fibra, perché per me non è fibra, perché l'ultimo pezzettino, gli ultimi 50 metri sono in rame, e prima avevo la DSL, io non ho visto nessun miglioramento di coso, ci sono stati dei momenti che andava abbastanza veloce, ma non siamo mai arrivati più di 60, normalmente naviga a 20, da cosa può dipendere? Se vedete ci sono diverse utenze collegate insieme, da cosa può dipendere? Spiegami un po'. E quanti siete collegati? Vabbè, c'è la mia linea praticamente, poi c'è, quando siamo di lì tutti i wifi, siamo 3 o 4 persone. No, c'entra niente, cosa c'hai? La Vodafone, cioè. Ma è una grande biliata a Barbone, un periodo me l'hanno fatta, ho detto faccia tutto questo coso, adesso partiamo noi, facciamo dalla centrale, sembrava un po' più veloce, è durata un paio di giorni, una cagata, il telefonino è molto più veloce. Ascolta, cosa ti hanno messo, qualcosa, perché se volevo venire anche da me a metterlo, cosa hanno messo fuori, un qualcosa che va alimentato? No, niente, come qualcosa che va alimentato, un nuovo così, un modem mi hanno dato, un nuovo. Un modem, non mettevo niente, non so come funziona, dicevo mettevo questo coso che va alimentato, non so, boh. No, vabbè, il modem quello lì vuole alimentato, poi c'ha la possibilità di mettere la chiavetta, però io da lì lo passo, come si chiama un distributore di linee, router, come si chiama? Modem, router. Io qua non ne capisco niente, mi puoi chiedere altre cose, ma di computer sono proprio ignorante in materia, però cazzo, una delusione, ho detto, una cagata, c'è quella a fianco a me, la cartoleria, loro c'hanno la DSL, una bomba, come attaccano, una scheggia, cazzo, dico, ma è possibile, cioè, ogni volta che chiamo, adesso mi sono anche stufato, cazzo. Abbiamo fatto per comodità perché me ne volevo uscire a Tiscali, che era un rompimento di scatole, un furto era l'arma, però non ho notato nessun vantaggio. Poi ho detto non sarà il computer, può essere anche il computer lento, non lo so. E poi dipende che computer c'hai. Ma io non lo so, il computer è un Toshiba, non è nuovissimo, però il computer è un buon computer, non è di nuova generazione, c'ha 5-6 anni, tanto anni vedaccio, 5 anni mi sembra che ce l'ho. No, 6 anni ce l'ho. Roba da vedere, il PC ci mette molto da accendere, veloce, tensione e lo spegnimento. Sì, sì, no, ci andiamo abbastanza veloce, non posso dire, non è una scheggia come quell'altro che abbiamo dove c'è il locale tintometro. Io non ho mai visto un computer così veloce, colore del tintometro. Come schiacci si accende? Un secondo. Vuol dire c'è l'SSD come hard disk. Cosa c'ha? L'SSD, come l'SSD. L'hard disk. Non lo so, vabbè, quello fa solo quel tipo di lavoro, non deve fare altro, perché c'ha la, come si chiama, il dosaggio delle vernici, c'ha tutta la memoria, oh vabbè, già ce ne ha di memoria, ci sono migliaia, centinaia di migliaia di colori, c'è tutta la roba dentro, già ce n'è di roba dentro, però non ha tutto questo macchine, secondo me chi ha rovinato tutto è questo Windows 10 con tutte queste porcherie che ci ha messo. Ma cagare Windows 10, bacari dai. SSD è, allora, l'hard disk è motorizzato, no? C'è il motorino. SSD è una scheda roba, io l'ho messo nel mio computer. Diciamo che è un po' già migliorato, dai. Poi in quanto a urti, sempre nell'urto non si spacca, ma c'è quello, l'hard disk con la motorino, basta un minimo colpa, si inceppa, si crepa. Invece questi qua sono più resistenti, dai. Sì, boh, sicuramente. No, ma io questa cosa a me non mi dà soddisfazione. Ero contentissimo, ho detto finalmente la fibra navighi fino a 100 mega, ma è di 100 mega. No, domani mattina faccio quello, la prova Eolo. Certe volte arriva a 20, 25, se no normalmente 20. È arrivato a 30, qualche volta. Poi se stacco tutto quanto, è arrivato anche a 60. Però staccando tutto e facendo delle modifiche loro, mi hanno fatto lasciare una giornata qualcosa staccato, resettare tutto, mi ha fatto fare un sacco di funzioni e sono arrivato a 60, forse a 70, ma per pochi minuti, poi l'ho attaccato tutto e è tornato tutto quanto è prima. Boh, non lo so Robert, se conviene, sì, quanto paga a me? Dimmi, scusate, ma quel router può essere antiquato perché è un bel vecchio? Il? Come si chiama? È il router, quello che distribuisce tu. Distribuisce la linea. Allora, loro mi hanno messo questa, la chiamano la stazione loro, però dopo la stazione, cioè, io lo chiamo router, non lo so se si chiama così, che serve per, dove ho attaccato le linee, perché c'ho linee anche a filo. Alla station dici? Allora, loro ti danno la station, che c'è anche l'apposto per la chiavetta di sicurezza, se manca la linea ti metti la chiavetta e ti utilizzi quello lì, nel caso che non c'è linea. Da lì parto, lo passo in una specie di scatoletta, io lo chiamo router o distributore di coso, e di lì ci attacco il telefono, due linee a cavo e basta. Buono, basta che non si attacca alla station il telefono. No, non l'attacco di lì, io l'attacco, siccome c'ho altre due linee, oltre quelle dell'ufficio. È una roba nuova, boh, non so. Quanto paghi al mese? No, non me lo ricordo, però tieni presente, io ho internet illimitato, mi sembra un centinaio di euro, 100-120 euro, internet illimitato, telefonate illimitate, ho due linee telefoniche in più. 100 euro al mese? 100-120, una cosa del... Cazzo! Io ne pago 49, mi pare. Beh, allora io pago 40, adesso lo so normale, c'ho la linea normale ancora. Perché loro mi hanno spedito, registrato il back, mi hanno spedito il modem, quello per fare la linea fibra, no? Solo che poi c'è stato un casino, non so, mancanza di personale, non so che cosa, e comunque adesso io pago 39, quasi 49 al mese, 89 ogni due mesi, prima ne pagavo 72 invece ogni due mesi, trovate il break. Ok, ciao Luca, ciao, va bene. Ma io l'ho installata la fibra, per così dire fibra, che poi non è proprio completamente fibra, una settimana fa, e mi ha spiegato il tecnico che la fibra ancora non c'è proprio fino alla stazione dove è stata richiesta, perché la fibra per dire arriva al ripetitore più vicino alla tua abitazione, da lì poi il rame, e dipende da quello, dipende dalla lunghezza, dalla distanza che c'è tra la tua abitazione e il ripetitore più vicino alla tua abitazione. Dunque, però il team, io l'ho fatto fare il mattino, il canone è 41 euro al mese, con tutte le telefonate che voglio, eccetera, eccetera, per cui va bene così. Noi avevamo prima quella normale, no? Però si era guastata, abbiamo chiamato il tecnico, fare molto la guida per cercare di parlarla, non ci sono riusciti, o meglio ci sono riusciti per un'ora, poi è di nuovo ballata, abbiamo deciso, abbiamo telefonato, e detto, cambiamo, facciamo, mettiamo la fibra. Perché la fibra dice, magari dice, ci arrivano 200 giga al ripetitore, ma la casa tua ne possono arrivare, se no, 100, 70, 80, anche, dipende dalla distanza che c'è tra l'abitazione e il ripetitore, così mi hanno detto. Vai, Roberto. Ciao Giulio, ben sentito. No, Luca, non è al mese, ogni due mesi, mi pare, 120 o 130 ogni due mesi. Però noi abbiamo due numeri telefonici, abbiamo telefonate limitate verso tutti, linea internet 24 ore su 24. Io la, allora, la linea, la fibra arriva dove, a 50 metri da casa mia, diciamo dove c'è l'accoglio, deve fare 50 metri di rame, però hanno già montato, siamo stati i primi dove abito io, nella zona di Sassari, a mettere già le centraline, ce l'ho attaccata proprio dentro casa mia, diciamo, l'hanno già messa all'interno di casa mia, devono solo fare quell'ultimo pezzettino perché è già cablata la fibra. Per il momento stanno utilizzando dalla centralina, dalla strada, diciamo, principale, a dove abito io, a dove c'è l'officina, sono 50 metri, gli ultimi 50 metri sono in rame, però dice tu devi navigare a 70, 80, anche 90 devi navigare, purtroppo non venuta, non c'è cosa che te. Allora, all'inizio hanno fatto delle prove, sì, devo navigare così, attaccano, fanno tutto quanto, dopo un paio di giorni torna a capo e ritorna a 20, 25. Mi viene una presa per il culo, poi la vola a calendario. Io sono in fuori strada, anche io ho tutto limitato e pago, ho detto, 39 ogni mese. Io, dunque, in ufficio della mia figlia, metto un anno fa, massimo, e sempre con il discorso fibra, che poi fibra, ripeto, non è assolutamente, perché è sempre 50 e 50, o perlomeno 70 e 30, e dipende, ripeto, dalla distanza del rame che ci vuole. E lì invece addirittura il canone è 34 euro al mese, 34, però mi trova benissimo, è alla grande, veramente, bello, bello. Io non so, forse noi paghiamo un po' di più, non so per quale motivo, perché ci hanno messo diverse opzioni, adesso non so cosa sia, però rispetto a Tiscali si è risparmiato, non dico la metà, ma almeno il 50% l'ho risparmiato. Infatti Tiscali neanche morto nel consigliere, mai più, all'inizio costava poco, ma ogni anno, ogni mese, sempre aumenta. Alla fine quando è venuto a farmi il conteggio, quelli di Vodafone, perché prima mi dovevo mettere Team, ero già tutto d'accordo con Telecom, pigliando in giro, siamo stati tre mesi a esistere. E nulla, alla fine fa una cosa, è venuto un amico con di voi, mettiti il volo, ci hanno fatto abbastanza veloce perché anche loro hanno avuto difficoltà perché c'erano problemi col distacco eccetera. Con Timmy c'è la convenienza che ce lo fanno immediatamente il passaggio e non si va a perdere tempo. Però Vodafone l'ho fatto, ma non so se duri molto, sinceramente. Per il cellulare mi tengo Vodafone, purtroppo lo devo fare perché io mi sposto e va a avere copertura, se no me ne ero già andato d'accordo, però con Vodafone c'è una scheda internazionale, diciamo, risparmio qualche soldino. Ci rimango solo con la copertura, se no ce l'avremmo andato a cagare da 20 anni. Sì, beh certo, quello sì, d'accordo. Vabbè, ma adesso c'è Roberto, sì, Roberto. Come il segnale? Sì, qui è. Dunque, no, qui è tutto a posto. Com'è il segnale, Roberto? A Puglia, 9.25, anzi, bulu gruppo, rispetto a normale. Ma senta, saluterà Giulio. Avanti, Gianni, ciao già. Ciao Giulio, ciao, ben sentito, dai. Si sono dimenticati di me, dai. Non fa nulla. Vabbè. Io adesso c'ho Vodafone lo stesso, c'ho la fibra di Vodafone, ma ti dirò che non è molto efficiente, diciamo, a volte manca, a volte forse perché sono all'inizio, non lo so, ma non mi sta entusiasmando molto. E al telefono, il telefonino invece hanno aumentato diciamo il canone del telefono, quindi sono lì per lì per cambiarlo, conviene molto più contigo. Beh, ai telefonini vi posso fare un po' di informazioni perché sono abbastanza aggiornato. Allora, Vodafone c'ha un altro gestore, sempre marcato Vodafone, cioè gruppo Vodafone, si chiama io c'ho un'altra scheda, la utilizziamo in officina per altre cose, quello c'è la copertura di Vodafone, costa circa 7-10 euro al mese, 9,99 euro, c'hai tutto limitato, 50 giga eccetera eccetera di navigazione. Poi c'è, adesso conviene tantissimo Sì, ma però devi passare prima a Iliad e poi da Iliad te ne passi e paghi 5,99 con Kena ed è la team, in parole povere, c'è la copertura di team e quello è un bel gestore, con 5,99 ti dà 70 giga e telefonate sms limitate verso tutti. Perché c'è bisogno di fare questo passaggio, Roberto? Lo fa solo per gli ex Iliad, infatti mi ha detto tu fatene, non io, lo volevo fare a mia figlia, siccome lei è quello Wind che non ha avuto dura, che non prenderà nessuna parte, anche se ci sono uniti a tre ma non c'è copertura, ti sposti appena non ricevi niente, con i passi a Iliad, loro lo stavano facendo per bruciare a Iliad, siccome Iliad stava ammazzando il mercato, Vodafone l'ha fatto io, si chiama, per quelli che passano da Iliad a Coso, io gli fa un bel prezzo, 9,90 euro, c'hai 50 giga eccetera eccetera, però quello che ti fa attualmente la cosa più conveniente è questo Kena, si chiama con la K, ed è team, parole povere, la copertura di team un po' meno di Vodafone. Dipende cosa devi fare, se ti accontenti non vai in posti strani va benissimo, però se vai in certe zone anche lì di team sei scoperto. Io ho preso quella scheda lì perché avevo anche cose internazionali, chiamate internazionali per certe situazioni che mi interessavano, che mi interessano, devo prendere, per forza ho preso Vodafone, pago 10,99 al mese, però c'ho poco internet, adesso mi hanno regalato un anno di gratis, di 50 giga per un anno gratuiti, non so perché, forse anche mai sono cancellato, c'era un'altra opzione, però è una scheda internazionale, non è interessata a me questa, è interessata a un'altra persona. E adesso la battaglia tra loro che ci dice sempre l'utente, perché loro fanno di tutto per accaparrarsi la gente. La fottitura già, se vai all'estero e con Vodafone funziona in qualunque parte d'Europa, la team non ce la devono fare, il roaming è tutto un giro strano e ti fa pagare un bella telefonata. Beh, lo so che è così. Io ho Vodafone adesso, mi sa che mi tengo quelle, buonanotte. Tanti migliori sono qua, Vodafone e TIM. Sempre le case madri sono le migliori. Cioè, io ho parlato con gente che ci lavora, mi ha detto guarda, non perché ci lavoro io, però le case madri sono sempre le migliori. Gli altri si appoggiano sempre alle case madri, quindi sono i passaggi, le cose, paghi sempre di più. Poi adesso non so se sia una pubblicità che hanno fatto oppure se è vero questa cosa qua. Avanti giù. Ok, sì, beh, gli impianti bisogna dire la verità e sono sempre della team, per cui tutti quanti usufruiscono gli impianti team. Pertanto ogni gestione di telefono è subordinata naturalmente a quello che vogliono guadagnare, a quello naturalmente che devono spendere anche per poter pagare gli affitti degli impianti eccetera. Io conosco degli amici che hanno sempre lavorato alla team, addirittura gente proprio di un certo grado, e mi hanno sempre detto ma team in assoluto va a 1.000 euro, tanto perché ha più copertura dappertutto, poi non si può dire di no che non ci siano altre tipo Vodafone, ad esempio, che ha una buona copertura, e tipo altre, anche Wind, dipende da dove ti trovi anche, soprattutto. Però dice, la team è quello che ha la copertura più grande, in assoluto. Questo è quello che mi hanno sempre detto i tecnici della team stessa. Giusto lì. Avanti, Luca. Sì, 2 secondi, sto controllando la batteria, scusate, rimango qua un attimino in ascolto. Giulio, posso intervenire? Avanti, dimmi. Allora, io te lo dico con certezza e per esperienza. Se parliamo di linee fisse, Telecom, adesso non si chiama più Telecom, si chiama TIM, tanto di cappello perché tutte le linee sono della TIM adesso. Se parliamo di copertura di cellulare, numero uno in Italia, non in Sardegna, in Italia, in Sardegna non ne parliamo perché c'è il 95% del territorio coperto. Te lo dico per esperienza e io ti faccio le prove, ti porto col telefonino tuo. Se c'è TIM, io ti porto dove vado io e ti faccio vedere che tu TIM non prendi. E ognuno c'ha i punti propri, sia la TIM che Vodafone, soprattutto ne ha di più, perché io ho le mappe delle coperture di tutti. Io ti porto in certe zone dell'Oliastra, che l'unico telefonino che prende è Vodafone. da fondo, dentro la galleria di San Teodoro, all'interno della galleria, che c'hanno addirittura dentro la galleria in isofrequenza lavorare, c'hanno copertura, io ti porto l'argentiera giù, tu i team non prende, prende solo Vodafone. Il discorso è un altro, Vodafone è ladra, ti tira dei prezzi allucinanti, ti fai la ricarica da 10 euro e te ne da 9, ne devi fare 11 per farti la ricarica intera da 11, è tutto una puttitura. Io lo tengo a Vodafone, ti ripeto, solo per l'uso che ne faccio io, perché ho bisogno di copertura, poi quando andavo fuori all'estero mi serviva che andavo direttamente, perché all'estero c'è Vodafone, Vodafone è una delle più grandi multinazionali telefoniche, in Europa credo che sia la numero uno. Poi non è vero che c'è Vodafone, c'è il ponte della TIM, assolutamente no. Chi utilizzava i ponti della TIM per un certo periodo era Wind, che utilizzava anche le linee elettriche dell'Enel. Adesso Wind e 3 si sono uniti insieme ed è leggermente meglio la copertura, però tu vai dove ci sono i vigili del fuoco, sotto i garage, Wind non funziona. Te lo garantisco perché c'era mio cognato, lui c'ha due coso, c'ha Vodafone e TIM, lui mi TIM scusa, e Wind e 3 non prende. Io ti porto in 10.000 puzzi, Wind ti sposti da Olbia appena appena e non prendi. L'unici cellulari che prendono, anche ti devo dire, Vodafone c'ha dei punti scoperti, perché se tu vai a Bauni, Urzulé, quelle zone lì, in certi punti non prendi neanche Vodafone. Se ne vai a Oso, come si chiama, dove ci sono le terme di Castelduria, di lì ti devi spostare se non prende neanche Vodafone. Però TIM è eccellente come copertura, ma non è a livello di Vodafone, te lo garantisco con certezza. E io non lo so, a me quello che mi hanno detto, ti sto dicendo, questo è un tecnico della TIM, da sempre. Davvero adesso è andato anche in pensione, per cui si può immaginare, se non lo fa lui, visto che era anche un capo, era tra l'altro, e dice sì, e poi ci possono essere dei punti dove appunto non riceve nemmeno la TIM, magari riceve un'altra cosa telefonica, sì, questa che succede. Ma io mi ricordo, senza andare molto lontano, eravamo in campeggio, eravamo in una giornata, avevo passata a Portoferro, io avevo allora, in quel periodo avevo un telefonino da 70 euro, non di più, massimo 80 euro, non mi ricordo con esattezza, ma era un telefonino di 4 soldi, e c'avevo la TIM, c'avevo, da sempre. Beh, c'era gente, tutti quanti sfoggiando, guarda che eravamo una trentina di persone, e tutti quanti sfoggiando il loro telefonino, no? Hanno provato, e nessuno riusciva a telefonare da quella zona dove eravamo, Portoferro, in una imboscata da una parte, e all'interno di una campagna, eccetera. Beh, aprendo, me ne tocco il telefonino io, formo il numero, e il mio prendeva. Un telefonino da 80 euro massimo, e allora con un telefonino da 700-800 euro non nessuno è riuscito a telefonare, incominciando anche da miei fratelli, tanto per farti un nome così, no? Per dirti, dipende da dove ti trovi e da quale posizione stai trasmettendo, ci sono dei ripetitori che sono efficienti e magari altri ripetitori che non sono efficienti e non riesci a agganciarli. È tutto lì. Gianni. È sempre un inghippo con queste cose, vabbè, le zone d'ombra ci sono sempre robe che c'è poco da fare, ci sono dei posti dove non ricevi, dove non arrivano le onde, dove non arriva il segnale, vabbè. Ma comunque in linea di massima TIM e Vodafone sono le migliori come gestori. No, non dico assolutamente, io te lo dico, lo sai perché questo fatto qua? Perché io avevo, anche se ormai sono tutti due assi, ma avevo due schede, Vodafone e TIM. È capitato qualche volta, non dico sempre, qualche volta mi è capitato, e ti dico i punti, se vuoi andare lo provi, vai all'argentiera giù con la scheda TIM, ti metti vicino a me e parliamo insieme, tu vedi se riesci a agganciare. Io ti faccio vedere che io Vodafone, addirittura c'ho anche la connessione 4G, probabilmente riesce a incanalarsi, non lo so, ti porto alle terme di Castelduria, tu metti TIM e non prendi, ti porto a cosa, nell'Oliata, che di lì TIM lavora malissimo, sono zone, è una zona impervia, perché di lì ci sono punti che non prende neanche Vodafone. TIM come copertura è il secondo in Sardegna, stiamo parlando, come copertura rispetto a Vodafone. Non Vodafone c'ha dei punti, io ce l'ho la mappa, ma l'ho guardata apposta, la mappa dei punti ripetitori. Nell'Oliata TIM c'ha grossissime difficoltà. difficoltà. Tu mi dici, io non vado mai tutta quella zona Bauneo, Rosé, quelle zone lì fino a Tortoli, a scendere giù. Ti dici, ci sono dei punti, io ci vado spesso, d'estate ci vado spesso, e ti dico, ho trovato in certi punti anche zero copertura con Vodafone. E in molti punti non si prendeva neanche voi, team. Sì, ma che è così? Puta, quello che ti sto dicendo. Si prende la roba, sì, purtroppo è così. Purtroppo è così, veramente. Io ad esempio lo stesso ho due schermi. Uno è il posto mobile, tutti quanti la criticano. Intanto ho pago meno di tutti, perché io ho il contratto trimestrale per l'Evoluzione 3, dunque pago 10 euro al mese, però faccio il versamento, lo devo fare ogni 3 mesi, no? Devo farlo. E poi ho anche Vodafone lo stesso. Vodafone per me sono anche dei rari, perché io ho anche protestato, perché ho questa scheda, non la uso mai e me ne prendevo dei soldi così settimanalmente. Tu settimanalmente controllavi il credito che avevi e ti mancavano sempre 2-3 euro dalla scheda. Ma dico io, ho telefonato e da allora non è successo più. Perché? Perché loro, anche se tu non telefoni, e questo non è successo solo a me, è successo a tantissime persone, mi prendevano i soldi. Perché? Perché magari loro vogliono che tu telefoni, che fai il consumo, e non è così. Però ti posso dire, ad esempio, un mio amico che anche poc'anzi stavo parlando, Gianni già lo conosce, Antonella, ad esempio, va a Vodafone. Vodafone con le stesse cose che ho io, tipo che so io mille telefonate, messaggi, balle varie, internet, tutto, si paga roba di 17 euro al mese, Gianni, 17 euro al mese, io con Poste Mobile pago 10 euro al mese, per dire, no, ci sono delle differenze madornali, in tutti i sensi, però non solamente a livello di copertura, ponti e balle varie, ma anche a questione di soldi. E dai, mi devo allontanare che per tutta gente, dai, vi saluto, magari riprendo dopo, dai. Ehi, ciao Giacomo. Babbo, ciao Giacomo, ci sentiamo allora. Luca. Luca, stava facendo. Allora, quello che hai detto tu, Giulio, pienamente d'accordo, Vodafone è un furto legalizzato, perché io per avere le cose, le disponibilità che ti danno gli altri, devo spendere minimo 10 euro in più, te lo dico perché ne pagavo abbastanza io, ogni mese è una puttidura. Ti hai presente la scheda che ho io, costa, adesso l'ho portata a 10,99 euro, l'unico vantaggio che ho, non posso mandare gli sms perché costano 0,57 l'uno, vabbè io non ne mando sms, perché utilizzo WhatsApp, Messenger, eccetera, eccetera. Se dovessi mandare un sms, io a me ho speso 30 euro la prima volta che l'ho attivata con la scheda per avvisare tutti del mio nuovo numero di telefono, mi ha preso 29 euro per mandare un centinaio di messaggi, adesso non mi ricordo quanti erano, dicendo che avevo cambiato un numero a tutti i miei, quelli in rubrica. È una buttitura clamorosa, perché ogni cosa, poi non hai internet, io internet ne ho pochissimo, mi pare ne ho 4 giga, parliamo con quella scheda che ho io, mi hanno regalato adesso 50 giga, perché me ne sono andato, c'era un'altra applicazione che pagavo 6 euro al mese e mi davano 30 giga o 20 giga, adesso non mi ricordo, però sempre quasi il doppio degli altri paghi per avere la stessa cosa. Alla fine ha detto, beh, paragosa, mi tengo solo questa applicazione che ti permette di parlare con l'estero, l'unica cosa di buono che io posso parlare con l'estero è fatto per gli stranieri, che pago come una telefonata normale, tutti i paesi europei, extraeuropei, Stati Uniti e Canada e Australia mi sembra, io pago, per dire, se tu vai a fare una telefonata internazionale, a te ti grebbano e ti tirano un sacco di soldi, ti tirano, sempre che riesci a fare. Sì, è possibile, è così, perché no, ma te lo sto dicendo, come funziona Vodafone, Vodafone è troppo caro, non si può dire di no, per cui a me mi va bene così, io per le mie esigenze, vabbè, più che bene possiamo più, per me mi va Poste Mobile, l'ho fatto lì alle Poste direttamente, ce l'ho già un paio d'anni, vabbè, tutti lo criticano Poste Mobile, ma io dopo mi sono sempre trovato, ho sempre avuto copertura, magari altre persone hanno avuto la sfortuna di non avere copertura, che ne so, io so solo che mi trovo bene, e mi trovo bene anche per fatto dei soldi, perché pago solamente 10 euro al mese e praticamente faccio versamento ogni 3 mesi, 30 euro, per cui va bene, a me mi va bene così, per quello che serve a me, posso garantire. Io ho internet anche su quella sezione lì e lo uso tutto il santo giorno, si può dire. Quando sono a casa io sono sempre collegato su internet, sono sempre collegato e guardo tutto, giornali, sport, notizie, politica, tutto quanto io leggo dal telefonino, tutto, tutto il giorno, però soprattutto in questo periodo che non si può uscire di casa. Eppure i giga sono rimasti quelli, ho 7 giga, non è che ne ho una grande infinità, ho solamente 7 giga, però devo dire che io sfrutto la linea di casa perché sono interfacciato al router di casa, per cui posso stare 24 ore su 24 e i giga io non me li consumo, perché utilizzo la linea di casa, però quando vado fuori posso utilizzare lo stesso internet, però allora mi ho carico, perché non essendo più interfacciato alla linea di casa, ovviamente allora i giga se ne possono anche andare, tutto lì o robe. No, questo mobile è TIM, usa i punti della TIM, per cui c'è la stessa copertura di TIM, c'è il vantaggio economico che costa un po' di meno, perché loro non considerano, a unità mi sembra, c'è un sistema di numerazione diverso, però è convenientissimo, anche se devo dire ci sono adesso dei gestori che fanno i prezzi ancora più bassi. Il sistema migliore adesso, parlo oggi, ad oggi, è questo della Kena di TIM, questo qua c'ha di buono, per dire tu sei con Vodafone, c'è 10 euro di credito, tu questi 10 euro te li portano da loro, costa 5,99 euro al mese, e non paghi né attivazione né niente, anzi per dire paghi 10 euro, però te le tengono come credito, per dire, questa amica mia che gliel'ho fatto un mesetto fa, dai, era Iliad, però lo fa solo se sei Iliad o Postmobile come coso, se devi passare, deve essere di un gestore Postmobile o Iliad, se no non te lo fanno quel prezzo, costa 13 euro, pensa. Ti danno 70 giga e telefonate sms illimitate verso tutti, e quello è interessante. Poi se tu c'hai un credito di 5 euro da Vodafone o da dove sei, te lo porti di lì e te lo tengono il credito, non c'è nessuna spesa accessoria, mentre se vai dall'altra parte ti fanno pagare le spese accessorie. E attualmente è il sistema migliore come qualità di copertura, c'hai TIM per cui non hai nessun problema, e poi il prezzo più basso. Sì, beh certo, poi c'è quell'altro Iliad, c'è gente che è contenta di avere Iliad, uno di questi ad esempio è Gianfranco, lui ha dichiarato che per questa che con Iliad si trova bene e ce l'ha da un po' di tempo e non ha problemi. Ad esempio invece ce l'aveva mio fratello, dice non riuscivo mai a telefonare dove volevo io, e allora se l'ha subito cambiato, non so cosa si abbia messo per dire, no, ma è così, dai. Poi c'è, per quando c'è anche un altro sistema, c'è ad esempio per il telefonino di mia moglie è Windex, carichi per dire, non so, 10 euro e tu puoi utilizzare il telefono per un mese intero tranquillamente e anche di più. Se poi non lo ricarichi, magari perché ti sei consumato tutto il credito, però ricevi tranquillamente, vedi tutto, sempre interfacciato naturalmente alla linea di casa, utilizzi internet ugualmente, senza nessun problema. Chiaramente se poi vai fuori, magari non hai credito, non puoi nemmeno telefonare, per dire, no. Però queste possibilità ti avviare lo stesso, solo per esclusivamente la ricezione e quando sei collegato e interfacciato con la linea di casa, tutto lì come si chiama, Iliad è sotto la copertura di Wind 3, prima erano separati, c'era Wind e poi adesso si chiama Wind 3, diciamo leggermente meglio di copertura, perché prima Wind da solo era ridicolo, 3 non ne va vedendo, adesso si sono uniti per cui hanno fatto un unico gestore, c'è abbastanza utenti, di clienti ne ha abbastanza, non è a livello né di Vodafone né di TIM, per cui la copertura Iliad sta sfruttando, anche se mi hanno detto che dovrebbero aumentare qualche copertura di più utilizzando dei ripetitori di proprietà, questo è da vedere, non ci credo molto io. Io ti dico Wind assolutamente io non lo farei mai, sono miei figli al cacca, è ridicolo, c'aveva un'altra amica mia, la stessa ti spostava e non prendeva nessuno. Ti ripeto, mio cognato c'era, lui e Vigilio, già lo conosci, quello che era vicino a te, il nipote di quello vicino a te Giulio, lui c'ha Wind e poi c'ha Vodafone dentro il coso, infatti molte volte dice no, mi hai chiamato a Wind, lì non prende, dove ci sono i coso, i deposito sotto dei mezzi, non prende, che anche dice e siamo dentro Sassari, non è che siamo a vedere che siamo a coso, a Baunei o a posti strani, quindi assolutamente, c'ha dei prezzi buoni, devi dire c'ha prezzi buoni, non puoi dire niente, c'ho amici non di qua, di continente che c'hanno Cataweb, per dire che qua da noi è inesistente Cataweb, questo è di Genova, infatti veniva qua in Sardegna e dice ma qua non mi funziona niente, non funziona internet, io gli faccio guarda qua Vodafone, guarda Team che funziona, io qua da Genova mai avuto problemi, mi sposto da tutte le parti, qua in Sardegna attualmente numero uno di poco, non dico di molto, e Vodafone. E buonasera anche a lì. Ciao, sì. E sì, beh certo, appunto, sto dicendo, ripeto, ognuno poi fa le sue scelte, è ovvio, ma io ce l'ho avuto quindi, ed era andato via, proprio con lo stesso discorso che faceva Vodafone, e cioè anche loro mi mangiavano i soldi qui senza utilizzarlo. E allora dove sono andato e basta, io poi sono passato a Vodafone. Ripeto, poi successivamente a PosteMobile, come adesso io ho due scelte. Una è PosteMobile, che è quello ovvio tutto. Telefonate limitate, internet eccetera. Poi c'è Vodafone, che lì invece si sa, che è la solita scheda a consumo, che più telefonate fai, più ci sta il telefono, e più consumi, ovvio, questo è normale. Va bene, dai, facciamo entrare Teocinio, avanti Teocinio. Ma è officina. In officina. No, noi siamo sempre stati aperti, non abbiamo chiuso. Eh certo, noi possiamo aprire, noi siamo l'attività essenziale. No, noi meccanici, tutti quelli che fanno interventi di riparazione e manutenzione devono essere aperti. Se poi non apri sono problemi tuoi. Ma di una domanda, ma il colore suo originale è questo? Il colore è quello originale o l'aveva riverniciato? No, quello originale e vabbè, non c'è problema, dai. Ok, e facciamo un attimino di pausa, vediamo se c'è qualcuno oltre a Eugenio che vuole entrare, riepiloghiamo, Roberto da questa parte, Giulio Dollaro dall'altra e Eugenio è quello di Porto Torres. Vediamo se vuole entrare qualcuno, canale 10 avanti. Nuda, riprendete laggiù. Stavamo parlando dei gestori telefonici, ognuno di noi magari può avere una diversa compagnia telefonica, per cui può avere dei vantaggi e può avere anche meno vantaggi. Io ripeto, ho PosteMobile in un numero e l'altro numero è Vodafone, mi vanno bene così tranquillamente, ce l'ho già da anni, per cui va bene e continuo a stare così. Poi ci sono poi le persone, come appunto stavo dicendo anche a Roberto, che in certi posti non prende Team, magari prende Vodafone e così via, certo, ma succede certo, succede molto spesso. Io mi sono trovato anche ad esempio in ospedale, sotto nel tunnel dell'ospedale, ho visto gente con Vodafone, ad esempio, che non prendeva. Io ho acceso PosteMobile e ho preso, per dire, no? Per cui dipende sempre dal... forse che dipende anche dal telefonino tante volte. Secondo il telefonino che hai, può essere più sensibile se riesci a utilizzarlo e a telefonare. Ci sono magari... è un po' come le radio, se tu hai una radio sofisticata, prendi da tutti e anche da capo al mondo. Mentre invece magari ti trovi con una radiolina a 4 soldi e riesci a prendere solo le poche stazioni limitatamente a quello che magari sono modulata alla potenza delle varie stazioni radio, non è che si sa, è così. Vabbè, dai, avanti oggi. Io team, però ti ripeto, io parliamo prima di tutto per il discorso che quando vado in campo e vado in zona molte volte in piedi è leggermente meglio la Vodo. Poi c'ho Vodafone, ti ripeto, non la farei manco, non avrei manco molto il consiglio di andare in Vodafone, solo per il discorso della copertura, leggermente meglio, e pure perché c'ho questo vantaggio, quando vai all'estero in paesi esteri Vodafone ce l'hai, altre cose, situazioni di pagare una barca di soldi di telefonate, li paghi per dire solo l'attivazione la mattina appena accendi, paghi 3 euro e poi puoi fare le telefonate che ti piacciono con questo discorso di scheda che c'ho io e basta. Poi a me non mi è mai capitato di posti che prendetti team e non prendere Vodafone, il contrario sì, poche volte, ma mi è capitato. Ma posti tele cosa abbiamo detto, posti mobile è la stessa cosa di team perché utilizzerete sui ponti. La cosa ridicola che secondo me dovrebbe intervenire il governo, di lì tu non puoi fare su una montagna tre ponti Vodafone, team e Wind quando ne basterebbe uno solo, e con lo stesso ponte utilizzi, cioè non fai inquinamento, come si chiama, non dico atmosferico, inquinamento paesaggistico, metti lui l'antenna come fa, per dire, la RAI sul ponte ripetitore suo che trasmette 10 canali, oppure come fa Mediaset che dal ponte ripetitore suo trasmette 10 canali o 15 o quelli che sono. Dovevo dare l'obbligo su con un unico, c'è una postazione, mettiamo un'unica antenna e vi collegate tutti a quell'antenna lì, dividete le spese, invece ognuno smette la guerra con l'altro. No, benissimo, Santiago 9, Radio 5. E Aulla, benissimo, forte, chiara. Giulio sicuramente ti sentirà anche meglio perché è più vicino. No, quello non è detto, anzi, devo dire che secondo le nuove sei mi senti più tu, che senti meglio tu, che è lontano, che sei lontano, che io che sono vicino. Io so sempre il problema della vallata, qui dove sono io praticamente ho la vallata, sono sempre profondamente più in basso del livello del mare rispetto a Sassari, perché Sassari è 225 metri e io sono a 135 metri dove abito io, poi la casa è bassa, l'antenna è in basso, ugualmente, non è detto, vedete, da ottava mi superano per Sassari, eppure io ho 5 km di vantaggio in linea d'aria, perlomeno in linea stradale, eppure da ottava se uno chiama da ottava a me mi supera, e io parlando della stessa stazione, parlando con la stessa stazione, da ottava mi supera. Addirittura, no, ma quanto ti arrivate Eugenio giù? Chilometri da ottava, curve il bene che non è detto, si prende sempre dalla posizione, no? perché a ottava è più in alto, sei più in alto e dunque hai più possibilità di trasmettere meglio, tutto lì, vabbè. Giulio, quanto ti arriva Eugenio a te? 9, aspetta, adesso te lo dico di nuovo al prossimo passaggio. Io adesso ho un po' abbassato rispetto a poc'anzi, poco fa mi ha detto 9,25, adesso dovrei essere 9,10 massimo, 9,25, non lo so, confermi o non beh, fai girare su poi per Eugenio. 9 più 15 sei qua. Eugenio, vai per Giulio così ti dà il controllo di segnale. Addirittura. Sto dicendo, Roberto, è così, sono in basso, hai capito? Io sono in basso. È questo, ma dipende anche in quello, dipende la posizione, ad esempio se andiamo e parliamo di trasmettere verso la zona del sorso eccetera, io da Sassari praticamente batto tutti, io ho una registrazione rispetto a sorso, mandata da Franco, me l'ha mandata Franco e ce l'ho sempre con la registrazione, che sono i più forti di tutti, pochissimi fatti, senza stare a esagerare eccetera, più forte di Gianni, più forte di Claudio, più forte di tutti in assoluto, perché ho il video, chi lo vuole vedere ve lo posso anche mandare, e con gli si rende conto, perché ci siamo un attimo, non sovramodulare, persone che ho parlato, dipende sempre da posizione a posizione. Se poi parliamo invece di questo Alghero, non ne parliamo nemmeno, che Alghero c'è di uomo la pera, per dire, no, ecco qual è, dipende sempre da questa posizione, o lo bene. Quindi Franco, confermi che io passo a Giulio a Sorso? Ah no, volevo saperlo, grazie Franco, ti ringrazio. Buonasera. Ciao Tino, no, non ho capito, di che ripeti? niente, buonasera. Ciao Tino, allora è tu, dai. Ciao Eugenio, ciao Roberto. Eugenio, allora fai 7-8, e invece Giulio mi fa 9-15, sempre con picchi positivi, al contrario di Roberto mi fa 9-25. Sì, non passa. Troppo alto, c'è. La televisione in prepotenza. No, sono rientrato, ho messo a saldare la roba da mangiare, ci è rimasta ancora la carne a brodo, poi mangiare leggero, frutta, insalata, pasta di formaggio, che so chi è. Leggero? La pavona, o Luca. Tino, e adesso quanto ti arrivo, adesso in questo momento quanto ti arrivo, Tino? Prova a guardare il Twitter. Sì, tra il 20 e il 30, quindi ti do un 25, dai. Dipende, da tutto dipende, stiamo parlando di quello, dipende un po' da tutto, io ripeto, per cui no, tu ad esempio mi arrivi più forte di tutti, di gente che arriva da Sassari, tu mi arrivi sempre intorno alle 9:20, tante volte anche di più di 9:20, per dire no, tante volte anche sulla modulazione, anche ieri, ti ricordi? Ho parlato sulla modulazione sopra una persona e mi hai sentito. Parli tu, o quando stanno modulando gli altri, quelli della stazza, anche quelli della veloce, e ti sento. Dipende sempre da tantissime cose. È ovvio, purtroppo è così, la radio è così. Avanti, Roberto. Sì, no, così c'ha ragione. Sicuramente l'hai detto tu del fatto di Sorso, ma l'avrei detto, lo sapevo anche io. Ho detto Sorso, sicuramente ti ricordo, mentino, cosa. E Giulio ha ammazzato tutto perché c'era di fronte, pulito il coso. Mentre l'Alghero tu sei chiuso, mentre il fatto l'Alghero io sono completamente aperto. Io lavoro male Sorso, al cazzo del sardo, quelle zone lì. Porto Torre discretamente, l'Alghero arrivo a bomba. No, scusa un attimo, Roberto, no, non è che ammazza tutti. Diciamo parecchie persone da Sassari, parecchie persone, però se ad esempio se dovesse entrare Massimiliano oppure dovesse entrare Luigi, dallo Stato, certo che devono è sempre una questione di posizione, però io ripeto ho l'attenuante, lo passo, l'attenuante anche se sono in una casa bassa, allo stesso tempo più in basso di Sassari, e cioè per me è vallata questa, è vallata, e allo stesso tempo poi ho l'antenna autocostruita messa nel terrazzo, con 1,20 m di tubo, non di più, a livello di tetto, essendo un dipolo questo, se non ha una certa distanza dal tetto, dalle tegole, perde moltissimo in trasmissione e anche in ricezione, tanto è vero che diverse persone alle volte non riesco a sentire bene, proprio per il fatto che essendo un dipolo mi insegna chiunque che se non ha una certa distanza dal suolo, allora così non l'ho capito. Avanti Tino. E chi è quel bue? Il più forte di tutti. La Sardegna è divisa in tre parti. Due sono le mie e una è la vostra. E boh, non si discute, basta, è inutile che state lì, arrivo qui, arrivo là. Siamo siamo mezz'ora che lo stiamo dicendo. Oh signore, interrompo. Non ci hai detto nessuna novità, claro. Oh, scusate un attimino, dai. Allora io devo chiudere adesso, dai, così mangio qualcosa. È stato un piacere ascoltarvi tutti, ho visto Claudio appena rientrato, come entra lui me ne ando io, per non sbagliare. Ciao Claudio, ben sentito, ciao Tino, Giulio, Luca, Eugenio, Gianni, Doppio Rum, se c'è, tutti gli eventuali amici. Io faccio QRT. Ciao ciao, buonanotte se non ci sentiamo. Ciao Robè, ci sentiamo, dai. Vabbè, alla prossima, ciao. Avanti Luca, sei Roberto. Sì, ciao Robè, alla prossima. Eugenio. Ok, ciao Virginia, anche a te. Avanti qua. Io saluto tutti comunque, ma si è salutato adesso. Roberto l'ho salutato dalla finestra, non c'è bisogno di salutarlo. Ciao, buon QRT. Hai ragione. Potete stringermi anche la mano, certo. Tino. Io sono più forte di Roca Paccarda, Berba. Ehi Aguglia, tu me ne distruggi tanti da Sassari, perché come segnale tra te e Gianni, come segnale, praticamente sono i più forti in assoluto. I più forti in assoluto, anche di gente che c'è più vicino a me, per cui il discorso è sempre quello. Vabbè, comunque, interessante sentirsi poi quello, segnale poi 5 dB in più, 5 dB in meno, o meglio 5 punti S in più, 5 punti S in meno, non dB, non dB, dB è una cosa, di punti S sono altri, perché per ogni punto S ci vogliono 6 dB, per chi non lo sapete, ma questa è un'altra cosa, è una spiegazione tecnica di elettronica. Avanti Claudio. Questa è una cosa che io ho puntualizzato un sacco di volte, ma tutti continuano a dire, mi stai arrivando 5 dB oltre 9, non è così, i dB sono una cosa, i punti S sono un'altra. Vabbè, qua, ma già lo sappiamo, dai, non tutti sono all'altezza di capire certe nozioni tecniche, per cui non è quello il discorso. Basta leggere, oppure basta aver praticato un pochino per capire. Va bene lo stesso, dai, noi prendiamo tutto per buono. Avanti, Ottino. Ehi, innanzitutto ciao Claudio, che non ti ho salutato. Gianni, poi chi c'è? Eugenio, sei andato a mangiare? Non lo so, non mi ricordo. Ah, riprendi Gianni. Ehi, dai, ciao Tino, ciao anche a Claudio, dai. Mi sentite? Da non mi ero assentato che mi hanno portato la spesa e sono andato a sistemarmela, dai. Adesso sono rientrato, ma fra un po' stacco perché devo andare anche io a mettere qualcosa sotto i denti. Anche se mi ho smorfitto uno yogurt, dai. Mentre ho perso la spesa. Va bene, dai. Riprenda chi tocca. Mi sembra che tocchi a Claudio, poi non so se ci sia altra gente oltre noi, oltre Claudio, Tino e Giulio, dai. Scusa Claudio, giusto un'informazione, Gianni. Ti hanno portato la spesa, hai dovuto dare qualcosa, com'è? Come funziona? Sicuramente domani farò un elenco anche io per Mandrunia anche. No, Tino, a me me l'ha portata una persona a me cara, capito? Mi ha fatto la cortesia di andare a farmi la spesa, gli ho fatto l'elenco, mi ha fatto la spesa e niente, anche se non ha trovato tutto, perché molta roba non c'era. Vabbè. Comunque ci sono molti controlli, mi ha detto che nell'ospedale c'erano fuori le pattuglie che ti fermavano, ti controllavano anche lo scontrino. Sì, vabbè, quello non è un problema, devo andare, è che perderanno un po' di tempo quando lo faranno, se me lo faranno. Niente, volevo sapere se come funzionava, perché sennò tocco ci io. Va bene, riprendi qua, grazie. E quello è un abuso di potere, perché non devono controllare, è proprio un accidente. Devono controllare niente. Quando uno è all'aerospin è andato a fare la spesa e tu a me non devi controllare proprio niente. I scontri controlla la guardia di finanza, anche la benissimo. Anche loro si stanno montando la testa con questo coronavirus, forse anche lui non lo offende mai. Comunque volevo puntualizzare una cosa, Giulio, proprio inerente alle zone, perché vabbè, al di fuori di me che io in certe zone arrivo più basso, però arrivo da tutte le parti della Sardegna, e in altre sfascio il culo al grillo. Tino, che è più lontano di Gianni, a me mi arriva più forte Tino rispetto a Gianni, capito? Mi arriva più forte Tino, non di tanto, ma mi arriva più forte, stavo proprio notando adesso. Ok, e Tino è molto più distante rispetto a Gianni, Gianni è molto più vicino a me e lo vedo anche, mentre a Tino non lo vedo, per dirti, capito? Quindi queste cose ogni tanto bisogna anche puntualizzarle, perché non è uno usa quello, usa uno, usa quell'altro, capito? Come Porto Torres e come tante altre zone. E così, va bene, ok, ciao Gianni, allora buon correttivo, buona cena, buon tutto, noi abbiamo già tutto pronto, vabbè, le 8:30 stacco, avanti Eugenio. Ma scherzando, io non me ne sto andando. No, non te ne stai andando, hai detto, io ho sentito, anche tu staccavi per mettere qualcosa sotto i denti, hai mangiato uno yogurt, va bene così, boh. Capito male Giulio? No, fra un po' ho detto, non adesso. Vabbè, dai, non c'è problema. Comunque, per quanto riguarda il discorso che Tino arriva più forte, bisogna vedere anche i fatti che usa Tino, i fatti che uso io e tutto quanto. Sì, ma comunque non sarà certo quei 5 punti S che faranno la storia, dai. Non c'è problema. Interessante che mi sentiate. Sì, ma allora, vabbè, io ho il vostro della radio, di più non vanno, Vi devo lasciare anch'io, scusate ragazzi, ma devo appicciare il fuoco perché qua inizia il freschetto e quindi devo buttare giù le orate. Ehi a te, no Gianni, non fa intendere, non è questione di vatte o non vatte, è questione di posizione, ok? Non è una questione di posizione. Una questione di posizione, perché ad esempio tu di quelli del latte dolce, di quelli che mudano da quella zona inerente al latte dolce, tiro ancora più lontano, sei quel segnale più alto di tutti, ok? Mentre vabbè Marco è quello che mi arriva più forte di tutti, nonostante usi 4 watt, mi arriva a 9:30, assieme a Luca, però sono molto più avanzati rispetto a te, però tu c'hai un ultimo segnale, come c'è un ultimo segnale che è 9:20, Giulio, reali punti, anche Massimiliano. Perché però? Perché io sono talmente in alto che vi vedo tutti. Se fossi stato un pochino più in basso o più all'interno come Antonello Pomponio, allora avrei ricevuto molto molto meno, capito già? Vai Giulio. Sì, ma è così, in effetti è così. Io poc'anzi ho dato qualche fatto in più e ho chiesto il controllo a Roberto. A Roberto mi ha detto 9:25 è abbondante anche, per cui vedi bene che è quello che conta, però non ha senso nemmeno andare a sfruttare troppa potenza per poter appunto guadagnare magari, che so io, 3, 4, 5 punti esce, non ha senso, ma siccome stiamo parlando, dunque, io ripeto, ho un filmato, l'ho fatto da Franco di Sorso, e ci siamo tutti, o quasi, ci sono io, ci sei tu, c'è Gianni, insomma diverse persone, e ce l'ho ancora, è un video addirittura, il più forte, anzi addirittura ma anche scritto, era anche scritto lui sotto. Guarda il tuo segnale, più forte di tutti, per dire no, e io sono nella posizione che sono, nella posizione in cui mi trovo. Gianni sicuramente è più avvantaggiato di me come altezza di palazzo, come vicinanza verso Sorsa, eccetera. Io sono più lontano, in una casa bassa, con una antenna autocostruita, messa in un terrazzino in basso, eccetera, eccetera. Nonostante tutto arrivo più forte. Dipende sempre dalla posizione, quando trovi il banco giusto, ecco, è quello che conta. Tutto lì. Avanti io, Tino. No, Tino è attaccato che deve fare fuoco. No, io non faccio testa a Sorso, io devo Santiago 9 a Sorso, e va bene così. Se ho la potenza mia posso arrivare 9:5, ma no, non di più, come mi arriva Franco, a me Franco mi arriva 9:5, va bene. Tu le prove devi fare con Gianni, con Tino e con Massimiliano, che siete quelli praticamente faccia a Sorso, con loro devi fare prove, non che ci siamo tutti. Tutti non vuol dire niente, perché anch'io posso fare una prova con tutti voi, con Porto Torres o con Alghero, difficile la differenza, non c'entra niente. Capito? Nonostante siete aperti tutti, tu la prova la devi fare per vedere se la tua zona è più aperta, cioè se c'è qualche varco, devi farla con loro, non con chi è dentro Sassari. A prescindere da me che sono in alto, è un'altra cosa. Ma io so sul mio segnale, lo so da una vita, io non arrivo più di 9, ma se ho potenza alta 9,5, non di più, ma il mio segnale è quello. 8,5-9 è più che sufficiente per me, perché io ho la colonnetta di San Francesco e non sono aperto per Sorso, capito? Sono aperto per Sennori. Per Sennori sì, che è più alto, ma per Sorso no. Nonostante Franco abbia una posizione invidiabile, altissima, capito? È per quello che gli arrivo bene. Va bene, avanti. Eugenio non c'è più, tutti andati via sono. Gianni, riprendi, dai. Ehi, vabbè, io non faccio proprio con nessuno, che mi manca la mia chicca peperita. Sì, la chicca peperita, Giannai, Baracchini. La chicca peperita come radio, perché è un baracchino grande, bello e sostanzioso, ma Giannai altri dei baracchini che possono fare la differenza, non ti preoccupare. Che umanimo da Rampazzi, o Bobra da Rampazzi. No, quello no. E Cobra, stasera come l'ho acceso fischiava, allora molla di tutto, perché la regolazione l'avevamo fatta, poi come l'ho acceso fischiava di nuovo, l'ho abbassato, uscivo passo di radio, allora basta, ho mollato tutto e rimette il microfono su originale, boh, basta, il baracchino va così e basta, tutto lì, o ci vuole l'MV5 lì, posso già oramai, è appurato. No, quello che voglio aggiustarmi è Galas, quello lì in mezzo di gruppo, ma quell'apparato lì me lo devo accendere perché c'è... l'ha già acceso, ma finito. E già lì bisogna vedere la componentistica, se te l'ha già controllato, bisogna vedere cos'è che succede ogni volta, non lo so. A me difetto non me ne ha mai fatto di quel genere, l'unico difetto che mi ha fatto era l'alternata sulla 220, quando lo usavo a 220. Poi mi ero rotto le balle e l'avevo dato a un radioamatore di Trinitalia l'ultimo, perché è proprio il suo lavoro, fa il tecnico, però non ha molto tempo, perché io lavoravo in quella zona, gliel'ho portato, gli ho lasciato una settimana, mi ha fatto la modifica. Capito? Mi ha fatto il cavetto, tutto, diciamo che in originale, anche l'alimentazione a 12 volte, però non la sfrutta mai nessuno, quindi non l'ho eliminata, non l'ho eliminata, il cavo è rimasto, tutto, però all'interno mi ha fatto una modifica e passava, lo usavo a 12 volte, non mi ha mai fatto nessun difetto. L'avevo venduto a Nino, quello di Ostiri. Amino quello di Ostiri, penso che ce l'abbia ancora, non lo so, non mi ha mai detto niente, non si è mai lamentato, quindi era nuovo. Vabbè, ok, avanti Giulio. Ok, comunque Gianni, la caratteristica del Cobra, se c'hai un microfono preamplificato, non puoi assolutamente aumentare il mic gain, perché anch'io ce l'ho un Cobra, se metto il microfono preamplificato, allora comincia il fischiettino, e quella è una caratteristica del Cobra. O usi il microfono suo normale con il mic gain, come ti pare ti piace, o perlomeno devi abbassare completamente il mic gain, al massimo una puntina, non di più, e il microfono per amplificato. È quello, è così è nato e così funzionerà sempre. Per cui va bene signori, dopo tutto questo io vi saluto, sono le 8:24, per cui vi hanno chiamato per la cena. Ci sentiamo, ciao Claudio, alla prossima domani. Ciao Gianni, Roberto se si era ascolto, Tino, Luca, Eugenio, insomma quanti ce ne sono, salutoni a tutti, per me QRT. Avanti Gianni, ascolta il finale e poi chiudo, vai. Ehi, dai, ciao Giulio, dai. Buona continuazione, buona carica quando la fai. Vai. Avanti Claudio. Io, ciao Giulio, sentiamo, buonasera, buon tutto le prossime. Vabbè, sarà una caratteristica di quel tipo di Cobra, perché quello c'ho io, che c'è anche sto usando Massimiliano, che c'è Massimiliano non lo fa. Io lo usavo col Pana più 3, con l'MV più 4, con l'MV più 5, non me ne mai fatto l'effetto, non lo so, forse un altro modello, non lo so, vabbè, comunque. Ciao, buonanotte, buon tutto, ci sentiamo domani, se coincide anche domani mattina. Calma, calma. Ciao Giulio, ciao. Qualche cosa ve l'ha comprata? No, si trova un cavolo in giro, mamma mia, che carne ne ha trovato poca. Aglio e prezzemolo, quella roba lì che uso, quello surgelato ho dovuto comprare quello normale perché quello surgelato non ce l'avevano più. Tutto finito, hanno tutto quanto più dato. Già, già. Quello congelato io lo prendo poche volte, prendo quello fresco, prendo la mezzaluna, me lo trito tutto, congelato, me lo faccio congelato fresco, lo metto nella vaschettina, me lo metto in freezer. E tu vai giù congelato fresco, non cambia assolutamente niente, anzi, è ancora più buono, capite? È ancora più buono. Già, io la carne l'ho presa la settimana scorsa, adesso sta un po' calando, la roba del freezer, però penso che tra giovedì e venerdì ci rivado, mi metto in fila con calma, piano piano mi faccio un altro po' di spesa, carico d'acqua, un altro po' di carne, berati, pasta, c'è, insomma tutta la roba che usi molto frequentemente che non scada, non è che ti vuoi riempire il freezer. Comunque le buone notizie sono che siamo in calo con gli infetti, siamo in calo un po' con tutto. Conte, c'era la conferenza stampa anche oggi, ha detto spera di togliere queste restrizioni entro il 5 aprile, può darsi pure anche prima, quindi dobbiamo avere un po' di fiducia ancora. Rimane il fatto che l'allerta emergenza, quindi l'emergenza rimane sino al 31 di luglio, l'emergenza per quanto riguarda tutte le associazioni, i vari ospedali e le varie cose. Quindi toglierà sicuramente le restrizioni, questi decreti che ha fatto, si tornerà quasi alla normalità, ma con sempre l'emergenza alle spalle. Questo è quello che ha detto, poi vediamo se siamo in grado di poter cantare vittoria. Non bisogna essere molto affrettati, perché se poi non è passato del tutto la storia, ricominciamo da capo ed è una cosa che non finisce più. È meglio aspettare un po', esagerare aspettando piuttosto che cominciare subito e poi magari ritornare a essere di nuovo così. No, assolutamente. Adesso mi devo buscare questi fogli perché devo andare a fare la visita all'ospedale e me li chiedono, mi devo buscare i fogli nuovi perché per fare la visita all'ospedale sicuramente per entrare me li chiedono, sicuramente, perché stanno chiedendo a tutti i fogli quando entri dentro e in più ti fanno il tampone. Ho capito, già scaricateli da internet, io non so scaricare da internet, ce li ho. Scaricatele da internet, entra nel coso, come si chiama? Marzo 2020, boh, che cos'è? Decreto marzo 2020, coronavirus, mi pare che sia. Covid-19, una cosa del genere. Comunque c'è, sono i decreti, le cose nuove. In mia moglie, la seconda volta l'hanno rinviata a San Camillo. L'hanno chiamata alla visita a Rezzedo. Adesso vanno a fare la seconda visita a San Camillo, però non ci può andare, anzi gliel'hanno praticamente rinviato ad aprile, perciò è un casino. Vabbè, vediamo. No, beh, ha detto così lui, non è che ci sia altre cose da fare. Se la sanità è quella che decide, la protezione civile è quella sanità, quindi se dichiarano solo l'emergenza e dichiarano le restrizioni terminate, non si torna al 100% alla normalità, ma comunque almeno le attività riprendono a lavorare, se no Ma poi l'acqua è tocca e la papera non galleggia, se non tocca nei bidi a terra è un casino. Claudio, io il modello non so dove scaricarlo, il problema è che non c'ho stampante perché mi si è rotta e poi non me l'ho ricomprata, la usavo talmente poco che si asciugava l'inchiostro e ogni volta toccava comprare le cartucce, quindi non le ho più comprate, la verità è questa. Niente, non ne ho più di stampante, quindi non so, adesso vediamo un po' se riesco a buscarlo qualche foglio, lo chiedo a Alessandra se me lo fa quella di fronte, se mi può stampare uno di quei fogli lì, perché non posso farlo perché non c'ho la stampante, capito? Ma è un casino, un casino, già. Io sono troppo distante, è un casino. Guarda, c'è quello di fronte che lo fa, non è che ci voglia molto. Se no potresti anche farlo tramite l'app del telefonino, non so se si può fare, come ci mandano le ricette mediche, a me il medico me l'ha mandata sul telefonino la ricetta, io sono andato in farmacia e me l'hanno data. E quello lo so, anche il veterinario fa così, anche il veterinario Claudio fa così, non è una cosa nuova adesso, oramai si sa che sono le ricette elettroniche, non ci sono più quelle normali, però non è quello il fatto è che come fai a compilare un foglio che c'è sull'app, è un casino, come ti vai? No, vuole stampata e poi compilata a mano. Addirittura adesso stanno sequestrando anche le macchine, se non c'hai il permesso e hai diciamo il motivo per averlo, ti prendono anche la macchina adesso, te la sequestrano, capito? E Liliana mi ha detto che fuori dello spini c'erano le fatture dei carabinieri e controllavano oltre le cose anche gli scontrini. È arrischiato anche oggi perché non ci poteva andare, è troppo lontano da casa sua. Ieri l'hanno mandata via e oggi è ritornata perché tanto qua vicino a casa non c'è nulla. È un casino, infatti io scendevo via Verona prima all'Eurospin. Adesso c'è tornata la Cobra che qua di Carbonazzi e all'Eurospin di Carbonazzi. Io sto per fare in zona, capito? E non me la blocchi la macchina, dunque. Perché mi dice questa è la macchina, non quale diritto. Non stai scherzando. Ultima chiesa di mettere, una volta c'è il permesso c'è scritto da via Ugo La Malfa a via Carlo Felice per motivazione spesa supermercato, non ho capito, io l'altro giorno addirittura ho scritto anche, ho aggiunto anche tabacchino, infatti quando mi hanno fermato, perché mi hanno fermato già un paio di volte, due o tre, forse in terza, dice tabacchino, cosa deve prendere, sigarette? No, devo caricare il telefono. E poi se servono anche le sigarette, perché lo è un reato fumare. Via. È un casino adesso, è un casino. Guarda, speriamo che finisca questa restrizione, perché sennò guai. Io comunque ci fatemi guardare per quello, se c'è qualche problema, se vado al tabacchino a caricare il telefono, mi compro anche le sigarette. Non penso sia un reato fumare, no, per carità. Allora, il bandino, allora c'è il gatto di Giuseppe, mi dice la Google. E loro sono Claudio, ti hanno inquadrati, capito? Gli avevano detto linea dura con le persone perché se no fanno quello che vogliono. Gli avevano detto così sicuramente, gli hanno fatto il lavaggio di Lugabo. Chi è? Avanti, Eugenio, tu sì. Chi è che ha fatto capolino avanti? All'altro, la prima volta mi hanno fermato, ero già, no? Ho fatto il giro, sono sceso dalla chiesa, ho fatto via Forlanini e mi sono parcheggiato lì di fronte alla Cobec e sono andato a prendere il pane, no? Perché c'è lì, c'è Cesaraccio e poi c'è Oggiano, quello di Oggiano manca a paragone con quello di Cesaraccio, il pane. Sono entrato e ho preso il pane, era di domenica mattina, l'ho aperto. Invece stanno chiudendo domenica mattina. E l'aperto ho preso anche i pasticcini, perché c'è anche la pasticceria. E poi esco e vedono i carabinieri, non gli urbani. Sono già curiosi. Scusi, mica, vuole permesso? Sì. Proprio permesso. Dove abita? Proprio qua che via siamo. Qua siamo in via Cattolicendiera, ma cosa bandiera? C'è di cazzo è su quella bandiera? Lo dico io dove siamo. Qua siamo in via Carbonazzi, questa è via Carbonazzi, angolo via Follanini. Sì, sì, sì, sì. Lei dove abita? Io abito lì, guarda, quel palazzo alto, lo vede? Ecco, io abito in quel palazzo, quello è via Uramazza. Ah, va bene. E che cosa ha comprato? Sto per dire, ma cazzo e dolce cosa ho comprato? Ma non c'è, roba la matti. Cosa ho comprato? Cazzo, se sto uscendo dalla paletteria, cosa ho comprato? Le favole fresche. A volte sono un po'... ti irritano molte volte, lo fanno apposta per romperti le balle. Se secondo chi trovi, approfittano della divisa. Non è giusto. Non è giusto. Purtroppo è così. Ci sono anche quelli che fanno i pappagalli, che fischiano le ragazze dalle pattuglie. Li ho visti io. E meno le volte la mattina del posto, vicino di socio, l'avevo fermato all'ingresso di socio, stava lettera a lavorare, era senza cinghia di sicurezza. Ma una barzelletta, ma questo 2 settimane fa, che me l'ha raccontato il mio collega. L'ho fermato, paletta, cazzo, oggi mai lo va a tenere con il marciapiede. Fermato, dice, buongiorno. I documenti, tutto, il libretto, la patente, il permesso dove sta arrivando, dove era, cosa ha fatto, dove, se ne hanno fatto poco le domande. Era un po' un bel seccato perché era già stanco. Alle 6 del mattino, alle 7 del mattino, perché quello va a Porto Torres. Allora, quindi era smontante, capito? Ha fatto il turno di notte, già era con le balle girate. Alla fine non so niente di attaccarsi, veniva tutto in regola, cioè, le cinghie ce le ha, la cinghia ce l'ha, no guardi, ha sollevato la maglietta, non c'ho neanche le bretelle, l'ha detto. Insomma, ma cioè, uno, la divisa era, con la scritta Enica in tutta, cioè i giubbottini, l'ho usato anche io, ma lo vedi che uno è tra curto, sta rientrando a lavorare, che cosa era un fiore a palle? Lo fermi, buongiorno, tutto a posto, il permesso ce l'ha, si dà dove sta rientrando, con molta cautela, con molta tranquillità, stiamo diventando un pochino arroganti. E già la seconda volta a me mi chiamerò un po' le palle. La terza volta ti rimanderò a fanculo come i carabinieri. Non tanto i vigili urbani, perché a me i vigili urbani mi hanno fermato una volta solo, li conosco tutti, tra l'altro conosco anche il comandante, quindi non lo conosco. Ma i carabinieri ci ho cominciato a girare le balle. Probabilmente gli hanno fatto l'inquadramento, gli hanno detto di essere duri, di prendere la linea dura con le persone, perché se no fanno quello che gli pare. È la seconda volta che fanno e no, a me, io ho già capito chi era. È Eugenio che ha mangiato battato. Ah, Eugenio. Ah? Eugenia. Vabbè, comunque è chiaro che ognuno deve fare il suo lavoro, però farlo bene, senza arroganza, senza... capito? Non è che puoi, anche da quella di scontrini, a quale titolo? Dove c'è scritto tu mi ricordo lo scontrini? Se sto uscendo dal supermarket, perché vi controllo lo scontrino? Non fa voce, non devi chiedere niente, nulla, non devi controllare niente, perché se sono al supermercato vuol dire cioè, mi vedi che sto facendo la spesa e nel decreto parla che puoi andare a fare la spesa, quindi si stanno un po' mettendo in mostra a me, un po' mettendo in mostra si stanno, devono stare molto molto tranquilli e molto sereni. Anche se no cominciamo a raccontare barzellette dei carabinieri. vabbè, loro fare il loro mestiere, è chiaro. Loro se gli danno degli ordini, loro li eseguono e basta. È polizia militare, è poco di va. Quindi, sono molto inquadrati su quello che fanno. Inquadrati, non inquadrati, sono bei quadrati. Un babbo di gumma, vabbè, comunque. Speriamo che sia tutto bene. Mi piace domani mattina, domani no, domani mercoledì, giovedì dobbiamo andare a fare la spesa, invece di andare qua a Carbonate c'è una via Verona. Ci mi sotto le carabinieri alla rotonda, ribasso in alto, riusciamo a mettere mani. Cappa cappa. Vabbè, dai. Ok. Ma adesso mi pare che me ne vado a mandicare, ecco, non so se tu hai mangiato, ma io no. Mi mangio una mozzarella, qualche cosa così veloce, dai, non mangio gara di cucina. Allora, dai, ci sentiamo domani. Buona serata. No, no, già non ho mangiato, adesso vado anch'io, stavo aspettando che andassi tu. Vado a mangiare anch'io, dai. Ciao già, ci aggiorniamo domani. Speriamo sempre bene per tutti, a prescindere di tutto ciò. Speriamo bene che vada tutto al suo posto come era prima. Dai. Ciao a tutti, buonanotte, anche a chi ascolta. A domani, ciao Gianni. Ciao, ciao, ci sentiamo qua. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, Rogerio, ciao. Ciao, Claudio. Ciao, ciao, Claudio.